sopravvengono nuovi ancora più cordialmente salutati nella nostra compagnia per un convegno che è diventato ormai alla sua settima edizione, mi pare, se non ci ricordi, no? Senza dubbio il momento più qualificante del nostro stesso istituto. Vedi il fatto che insomma è quello di cui la pubblicazione degli atti va avanti con regolarità, anche se non sempre con la rapidità che ci saremmo proposti, perché era il nostro fermo proposito e devo purtroppo a mio disdoro ricordare, era mia formale promessa lo scorso anno di presentare in questa occasione il volume dell'ultimo di questi convegni, vero sulla pace, quello dell'anno scorso, e purtroppo insomma la mia vergogna consiste nel fatto che non l'ho in mano da presentare, però devo questa volta, come Adamo, dar la colpa a Eva, perché in realtà per quanto stava in noi saremmo a questo punto, il testo questa volta è composto ed è pronto per la stampa, se non che le edizioni deoniane, quando hanno visto apparire la nuova edizione del Messale, si sono buttati a pezzi su quello, perché evidentemente la magia è come le fonti e quindi non si può fare a meno, e così ci siamo trovati sacrificati. Comunque ci ricorderemo di voi non appena insomma, il volume comparirà. Ecco, sono tanto più lieto di questo incontro, consentitemi di dirlo anche personalmente, perché insomma, nel frattempo io sono stato per la seconda volta così, a rischio di passare dalle specie alla visione, non ne sono poi stato degno e sono rimasto indietro, e invece ho la consolazione di vedere le vostre facce e ne ringrazio decisamente il Signore anche di questo. L'altra cosa è una mezza scusa, mezza prima e mezza dopo, prendetela come credete, per l'ospitalità che anziché approfittare della vicina Villa Santissima con quella rudimentale ma cordiale ospitalità che avevamo, questa volta all'ultimo momento si è venuta a mancare per lavori in corso. D'altro canto, anche se questo si portava una certa maggiorazione di spesa, non abbiamo certo per questo voluto rinunciare alla vostra presenza, e quindi avete visto le nuove indicazioni per l'ospitalità all'Hotel Roma in centro, vero? Si porterà un po' di più di brighe con l'andare e venire, eccetera, ma io penso anche che quanto a vitto e alloggio forse vi troverete tutti più bene. Ecco, detto questo, io non ho molto da aggiungere, se non da ringraziare coloro che hanno lavorato e hanno lavorato in modo egregio, direi insomma ammirato da tutte le parti, quasi più unico che raro, perché nei propositi si sente sempre la volontà di preparare le cose prima e dopo invece solo discuterle, ma insomma il poterle realizzare e realizzare un simile proposito due mesi prima, però come nel nostro caso si è riuscito, veramente insomma è un fatto singolare e un merito non indifferente che noi dobbiamo per primo a Monsignor Sartori, che ha coltivato intensamente la maturazione di tutto questo convegno, e poi ai vari collaboratori di questo dossier conoscitivo, quello che è già nelle vostre mani, e ai relatori stessi. Quindi il mio ringraziamento è doveroso e sincero, particolarmente intenso in questa circostanza. Ecco, il tema, a dire la verità, io benché proveniente dall'orizzonte delle materie storico-ecclesiastiche, ecco, avevo l'impressione che un anno fa, quando lo abbiamo scelto, andassimo un po' brancicando, quasi attrezzando, no? Insomma, per cercare di coglierlo, mi sono accorto con gioiosa sorpresa che invece è stato afferrato saldamente e preso per mano in maniera molto sicura, e che insomma ha avuto anche una rispondenza molto, molto consistente, e quindi certo le aspettative e le speranze che possiamo porci rispetto a questo nostro incontro che come al solito è ridotto nel tempo ma tanto più denso nell'impegno, ecco, senza dubbio non sono campate in aria. Ancora una volta il mio ringraziamento a tutti e il mio più fervido augurio che vi possiate trovare bene e che possiamo svolgere insieme un lavoro proficuo. Cedo subito la bacchetta a Monsignor Luigi Sartori, che tutti conosciamo e che anche per i motivi antidetti senza dubbio è chiamato a dirigere tutta la serie dei nostri lavori. Quindi anche simbolicamente tutti noi di qua e così dopo andiamo avanti. No, ma qui con la luce, non tutto non è con la luce, vediamo se la luce è completa. No, è così, sono se lo si può, so che non se lo tu. Allora, comincio non con la formalità ma con la doverosa espressione di una gratitudine a Monsignor Roger, proprio l'abbiamo salutato, ma anche la Renko, perché tu giocavi il pallone, volevi andare in rete ma sei stato ricattato di nuovo nel gioco e quindi ti salutiamo anche perché ci dai la possibilità veramente di sfruttare una giornata e mezza, direi quasi alla la condensazione la più radicale, e offrendoci l'ospitalità, questo dossier, eccetera, che diventano veramente un fermento, uno strumento, quasi una specie di vera bomba atomica per poter camminare nelle vie della riflessione su temi utili. Una prima premessa, quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a fare il nostro convegno su questo tema? Ma ci possono essere anche, lo posso confessare, delle motivazioni esterne, quasi storiche. Pensate che è il terzo caso in cui noi trattiamo questo problema. All'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, alcuni anni fa, si è tentato di avviare questo discorso, e ci sono parecchi componenti di quell'equipe che ha lavorato, ma rispetto ai propositi si è rimasti indietro, cioè si voleva, direi, sfilacciare il significato di tanti elementi di questo tema, ma si è rimasti poi col piede a terra, in arretrato rispetto alle conclusioni. Quindi praticamente è stata una scelta che poi non ha portato conseguenze. Poi all'Università di Urbino, a un altro istituto di scienze religiose, si è ripreso il tema, ma anche lui lo si è consumato in un piccolo simposio di pochi giorni. Allora io ho ripensato a questi due tentativi non portati pienamente in porto per vedere se era possibile a Trento, che è la città del Concilio, se a Trento fosse possibile andare più avanti di quello che si è fatto. E direi proprio collegando soprattutto la competenza di teologi. Ma adesso, dopo di aver detto questa ragione piuttosto esterna, vi confido quella più interna, che è stata anche espressa chiaramente in quel primo foglietto che è stato mandato ai vari collaboratori del dossier, ossia il fatto del Papa polacco. Già a Bologna questa idea era uscita. Per comprendere il Papa che abbiamo in questo momento bisogna rifarsi a qualche cosa di, direi, di più remoto, di più radicale, di lontano da noi. E allora il discorso sul messianismo polacco, che sembra quasi esprimersi in questo Papa, ha portato a suscitare una curiosità per capire meglio tutta l'ampiezza di un mondo, quello slavo, che diremmo si rifà a un'altra ideologia, un altro modo di leggere la storia, a qualche cosa quindi che ha a che fare con il messianismo. E non per nulla abbiamo in questi tempi anche un po' l'attenzione dialettica circa la concezione dell'Europa. L'Europa, come la vuole questo Papa, è un'Europa che si deve strutturare tra l'Oriente e l'Occidente. La dichiarazione di patroni dell'Europa, insieme con San Benedetto, anche San Cirillo e Metodio, sta a indicare che si vuole concepire un'Europa più larga, dove la componente tenuta sempre assente, quasi non appartenesse all'Europa cristiana, si obbliga oggi a mantenerla, direi, più direttamente in presenza delle nostre riflessioni. È chiaro che finirà anche questo passato, ma ormai una svolta storica è stata segnata, nel senso che dobbiamo prepararci, se seguiamo quello che dicono gli studiosi di storia delle missioni, il terzo millennio vedrà chissà quanti papi non italiani. Allora, nella ruota della storia probabilissimamente dovremo allenarci a quest'altra idea, espressioni di altre messianicità, di altri carismi di popoli dentro la Chiesa. E quindi ecco le motivazioni che praticamente stanno nel fondo di questa nostra tematica. Secondo punto, quale il metodo? È la prima volta, lo sottolineo, è la prima volta che noi tentiamo un metodo, diremo, di maturità a cui tutti aspirano. Già gli altri anni, anche qui, si insisteva nel criticare la pesantezza di conferenze. E allora abbiamo detto, facciamo finalmente leva sulla capacità creativa e reattiva di un lavoro di gruppo di persone che leggono prima un dossier, e quindi io do per scontato che l'abbiate letto, di modo che qui tutto il lavoro sia veramente una riflessione critica a partire da questo dossier, che dovrebbe essere non solo stato letto, ma anche un tantino quasi verificato e direi introdotto nella promozione. Io a questo punto ringrazio coloro che hanno collaborato, ma credo, Menestrina, che invitati erano soprattutto i relatori, non so se sono tutti presenti, dunque qui ringraziamo che ma è presente, sì, non so. Stefani, c'è? Piovano c'è, il nostro Piovano, padre Piovano, alzati. Ecco, padre Piovano, benedettino di Pravia, allievo a Roma dell'Istituto Orientale, allievo di Stidli, che gli ha dato una piccola, un piccolo orientamento, dunque l'abbiamo preso. Boh. Dovrebbe arrivare, se ce la fa, la ma anche lui. Voss è un polacco che ha dato un una piccola scheggia, non è il suo vero contributo, sarà elaborato in seguito. Poi Michael Lane. Lei è un antico che vuole un istituto per telefono e non ha potuto alcune ecco, questo qui lo conosci tu a Udine? No. Lavora a Udine, all'Università di Udine. E in che cosa? Lavori nella letteratura? Letteratura inglese, sì. Poi Perrin verrà stasera domani mattina. Mancini ha promesso che viene insieme con un altro. Mancini mi ha scritto una lettera che è arrivata in l'altro ieri, è vero, e nella quale mi dice che purtroppo non saremo saluti anche nella quale sarà nazionale. Vabbè, tutti sei venuti. Va bene, comunque. Il dossier aveva solo la funzione di fornire le basi di partenza per la nostra discussione. Quindi io vi prego veramente, considerate questa giornata e mezza come una vera compressione, ma dove tutti questa volta devono lavorare. È chiaro che chi ha elaborato queste conferenze, se è presente, se sarà presente, dovrà tener conto del dibattito e eventualmente completare, però c'è la previsione anche che arrivi qualche altro contributo. C'è qui il padre Armeno di Venezia? Non c'è, non è arrivato ancora. Aveva promesso di fare un contributo anche sul messianismo armeno. Comunque, questo dossier sarà pubblicato, rielaborato e completato da altri interventi. Probabilmente io terrò conto anche del dibattito per vedere se posso suggerire ai relatori che non sono venuti e che non sono presenti qualche modifica, poi se qualcuno si offre a completare in rapporto a quello che qui avrà ricevuto come suggestione e provocazione, meglio, così avremo un volume, io penso sia interessante. Personalmente vi confesso la mia soddisfazione veramente avendolo letto, al di là di una non vedo che c'è una parola sconcia anche nel mio articolo. La cacca contro gli eretti. Però eretti. È un lapsus. No, l'ho mica fatto io. No. E quindi devo. Ah sì. No, perché questo loro hanno detto che il mio il mio contributo era scritto male, e qui a Trento, è l'istituto di Trento, che ha voluto purificarlo e rimetterlo a nuovo. Quindi il lapsus non è mio, è di Trento. A me sembra che sia un contributo assai suggestivo, assai ricco, quindi noi ne terremo conto, chiunque qui è presente cercherà eventualmente di completarlo. Io ho visto che senza incontrarsi per Mancini ha qualche cosa che tocca la relazione sull'ortodossia, sul mondo russo. Poi Mancini ha un testo intero proprio preso alla lettera da un autore che è citato anche da Stefani. Quindi praticamente c'è una certa confluenza, e noi quindi ringraziamo gli autori che dovrebbero restare protagonisti, ma eventualmente saranno anche tenuti presenti altri che vorranno completare il quadro. Pensate, abbiamo lasciato fuori non soltanto il mondo armeno, che ha una singolarissima storia di messianismo, ma anche l'Oriente in generale, l'America Latina per esempio, non trascurata, eccetera. E il Nord Europa eventualmente, poi tante altre cose a livello di italiani. Quindi se qualcuno si sentisse... Sì, Bulman cita parecchio, l'ho messo anch'io nel mio articolo, no? Ho messo dentro alcune indicazioni che il Bulman stesso fa, e quindi se qualcuno volesse brevemente completare qualche cosa, meglio, allora avremo un bel lavoro alla fine. Vi dico, l'ispirazione guida è venuta un po' da Bulman, lo confesso, quindi questo libro io lo consiglio veramente perché anche a livello di missionologia è, direi, quello che condensa le posizioni ultime attuali a livello di teologia delle missioni, teologia dei popoli. Anzi, a Bulman io avevo fatto arrivare anche l'invito perché partecipasse, perché meritava veramente che quest'uomo, che ha tanto lavorato per la promozione di una missionologia aperta, fosse presente. Poi in primo momento aveva detto di no. Quando ha letto il dossier si aveva quasi entusiasmato e mi ha mandato una lettera dove dice che purtroppo ha letto con interesse e ammirazione, e lui si sente purtroppo impegnato, che stava in Italia la settimana scorsa, adesso non si sente più di fare un altro viaggio perché vive in Svizzera e ha deciso di passare gli ultimi anni nella pietra, nel silenzio, nella meditazione. Comunque il testo di Bulman è la base, e abbiamo seguito un po' la sua prospettiva interdisciplinare, che divide il discorso sui popoli in quattro settori. Fa un certo tentativo di sintetizzare la Bibbia, poi, secondo, la storia del cristianesimo, e poi le scienze umane, storiche, sociologiche, antropologiche, in quanto si riflettono le culture di altri popoli che hanno la stessa sensazione o coscienza di essere messianici, e poi alla fine interroga la teologia. E l'unica critica che io faccio a lui è quella di avere posto più il problema quasi apologeticamente, cioè lui è preoccupato di sconfiggere una concezione diffusa di etnocentrismo nel cristianesimo, per cui tutta la sua preoccupazione è di abbattere questo etnocentrismo e dimostrare che dobbiamo concepire la fede, la Chiesa, il cristianesimo in senso non escludente, ma includente, aperto. Ma al di là di questa nota apologetica, che è in tensione a chiedere una fede diversa, più aperta, una ecclesiologia più aperta, liberate dall'etnocentrismo, non entra chiaramente nel problema del quid sit, il messianismo di un popolo, anche se ci sono molte suggestioni a questo livello. Ecco allora dove noi ci collochiamo. Abbiamo per fortuna qui anche due reduci di un altro convegno di un mese fa, quando è stato fatto, alcuni giorni fa, un mese fa, da Bergamo, a Bergamo, come era intitolato, Salvezze Futuri. Salvezze Futuri. Abbiamo Boff e Ricci, Amido Ricci, che praticamente terranno conto se c'è qualche cosa di interferenza. Ma noi vorremmo che questo nostro convegno fosse prevalentemente teologico, naturalmente interdisciplinare, e puntando il più possibile proprio sul tema specifico, non solo come fa Bulman i popoli eletti, ma proprio i popoli che hanno una coscienza messianica della propria elezione, cioè si sentono portatori di una missione presso gli altri popoli e su tutta l'umanità. Il quid sit teologico. Io ho cercato apposta di fare nella mia introduzione, direi, la rassegna degli spunti che ci vengono dalle varie materie, ma quando sono arrivato alla fine non ho dato una soluzione, ma ho aperto il ventaglio dei quattro nuclei di problemi che dovrebbero essere la base di questo nostro incontro. Mi permetto quasi di leggerli, ecco, le ultime pagine. Quindi questa sera noi dovremmo quasi percorrere, non per restare, non voglio catturare nessuno, percorrere la pista di problemi che io ho messo nella pagina 16 e che passa sotto il titolo che proprio qualifica questa prima nostra conferenza o riunione, l'originalità del messianismo biblico cristiano. Domani mattina invece faremo quella che a pagina 17 è posta proprio sotto la intitolazione l'eradicazione o la radicazione antropologica del messianismo. Tra stasera e domani a sera, in certo senso, noi andremo, direi, allargheremo il concetto di popolo messianico prima a livello orizzontale. Cioè, siccome dal dossier emerge che non c'è solo il popolo ebraico che ha la coscienza di essere messianico, tra parentesi, e noi cristiani abbiamo un conto da pagare, perché abbiamo considerato messianico questo popolo fino al momento in cui è venuto Cristo il Nuovo Testamento. Dopo abbiamo ucciso questo popolo, è morto, come se tutto ciò che è venuto dopo non avesse più senso. Quindi in nome del messianismo pieno di Cristo, che realizzerebbe il messianismo del popolo ebraico, noi abbiamo seppellito e chiuso le porte per questo. Quindi abbiamo già un conto da aprire. Però, anche leggendo il testo di Stefani e degli altri, il posto dei vostri convegni, e il testo di Mancini, noi vediamo, e poi tutto il dossier, che altri popoli, quindi c'è da allargare addirittura adesso in orizzontale. Questa sera è questo il discorso. Il messianismo ebraico-cristiano, questo stesso pone un problema, si chiude in se stesso o si apre? Il messianismo cristiano è escludente di quello ebraico e poi insieme escludono gli altri e se invece includono fino a che punto? Ecco il problema dello specifico, in orizzontale. Domani mattina invece in profondità, in verticale, cioè dalle letture anche diremmo fuori dell'area biblica, come quella secolarizzante, secolarizzata, come dell'Africa, eccetera, e altre letture antropologiche che si possono fare, si scopre che il messianismo sembra avere una radicazione dentro l'uomo, non soltanto universale in superficie, ma è anche profondo e ha radici che sembrano dire venire prima della fede, prima di un dato positivo di rivelazione di Bibbia. Allora, un altro approfondimento, questa volta in verticale, in profondità, ecco il significato dei primi due dibattiti. Invece le ultime due confronti, la mattinata, domani, seconda parte, e il pomeriggio, sono dedicati a un ripensamento della Chiesa, della fede, in rapporto a questo. Anche qui diremo nelle due direzioni, in orizzontale, cioè come pensare una Chiesa che adesso deve rendersi aperta non soltanto ai carismi dei singoli, e questo è già ancora un futuro non conseguito, ma aperta ai carismi di popoli diversi, il problema dell'inculturazione, ma visto non in profondità, direi in estensione. Cosa vuol dire una Chiesa capace di assumere i carismi di popoli? C'è o non c'è questo problema? Non soltanto una Chiesa piccola che assume i carismi dei singoli dentro le comunità, ma una Chiesa veramente cattolica, universale, che a livello planetario, storico, ormai 3.000 anni, nel 2000, assume, ecco la seconda parte della giornata di domani, che corrisponde a questa sera. E invece il pomeriggio, piuttosto in profondità, dentro la Chiesa, qual è il nuovo modo di mettere in moto i rapporti, soprattutto tra base e autorità, leader, tra popolo, popolazione, popolo, gruppo e leadership. E quindi questa seconda, diremo, riflessione del pomeriggio di domani corrisponderà alla prima di domani mattina. Un ripensamento quindi ecclesiologico in orizzontale, sono schemi, è in verticale. Ecco, quello che noi vorremmo fare. Allora proviamo a leggere per questa sera, vediamo, anche per così allenarci, entrare dentro. Poi avremo i quattro introduttori, sono solo introduttori, al massimo 10 minuti, l'ho detto esplicitamente a loro, introducono, perché devono quasi esemplificare per primi una risposta ai problemi perché si accenda il dibattito. Allora, proviamo a leggere, per affezionarsi un po' al tema, la pagina 16. Anzitutto, il resto di colì si tratta di comprendere più in profondità l'originalità peculiare del messianismo biblico cristiano. Non basta affermare l'universalità della elezione del messianismo, si deve cogliere l'originalità concreta di ciascuno, soprattutto se si vuole tener conto della singolarità irrepetibile, trascendente, che rivela già per sé il messianismo di Cristo. Elenchiamo allora alcuni gruppi di domande. Primo, che significa Messia per Israele prima e per la Chiesa poi? Abbiamo il debito, ho detto prima. Poi, in che tensione sta il messianismo di una persona singola dentro il popolo, col messianismo di tutto intero il popolo? Stefani fa parecchio questo discorso. Poi, ancora, sono tutte sotto domande. Cosa rifluisce da quello su questo e viceversa, dal messianismo del singolo e quello del popolo? Che valore hanno le categorie di vicarietà e di rappresentanza nell'ottica dell'uno per tutti e in tutti, naturalmente il rapporto di un popolo per gli altri, un popolo vicario degli altri? Ecco, pensate le idee che pensavano, oggi avevano detto in un convegno che è solo Adorno la scuola di Francoforte che si parla di questo concetto, e invece poi l'abbiamo trovata in Hegel, l'abbiamo trovata chi ha letto il Stefani, anche Maimonide, questo concetto di un popolo che vive da vicario e di rappresentante degli altri. Inoltre, che novità esprime il passaggio al messianismo di un popolo dentro altri popoli? In questo caso, come funzionano le precedenti categorie della vicarietà? Cioè, quando incontriamo messianismi fuori dell'area biblica, rappresentante del Cesare. Secondo gruppo di domande, come interpretare il rapporto intreccio fra le nozioni e le realtà di elezione, su cui si ferma Bühlmann, messianicità, che è il nostro discorso, ed eventualmente dei temi analoghi in alcuni rapporti come quello di Terrinse, più dentro questo, la profezia, e in alcune tematiche anche del messianismo secolarizzato, l'apocalittica, l'apocalisse. In che tensione sono queste categorie? Quale spazio si concede al significato dei movimenti veloci? Oppure c'erano, cioè, con curiosità scientifica, noi li conosciamo nella Bibbia, casomai li eliminiamo, ma hanno un significato anche oggi, degli intransigenti, se siamo gli stessi farisei, i loro avversari. Terzo, il capitolo della Lumen Gentium sul popolo di Dio insiste sul superamento di fattori carnali e quindi limitativi del popolo, che sarebbe l'antico. Solo nella novità dello spirito, si dice lì, si consegue la vera universalità. Allora, ecco la domanda, come interpretare tale novità? È vero che qui precediamo forse il dibattito che si può fare domani mattina con quella dell'ecclesiologia, ma qui si tratta di radicalizzare il problema. Come superamento o come compimento? Con quali categorie? Bastano quelle di sacerdozio, di profetismo, di regalità escatologica? Il popolo nuovo supera l'antico in quanto spiritualizza il sacerdozio, il profetismo. Come legare tra loro la dimensione di trascendenza escatologica e quella di incarnazione storica? Quarto, il Messia Cristo continua esclusivamente, questo è delicato, il Messia Gesù, il messianismo di Cristo continua esclusivamente nel messianismo della Chiesa e non si può pensare a un prolungamento del messianismo di Israele stesso? Continua Israele ad essere un popolo messianico? Quinto, poi voi direte, è il messianismo fuori di Israele, ma questo sarà casomai domani mattina, eventualmente, ma anche stasera, perché non occorre che noi ci preoccupiamo di restare chiusi dentro una problematica, anche se succedono degli intrecci. Quinto, come rapportare il messianismo cristiano al messianismo religioso di altri popoli e anche al messianismo generico che si esprime sotto forme anche non religiose? Come intendere la non esclusione e la inclusione del rapporto alle attese e alle speranze umane di popoli? Queste sono le tematiche di questa sera. Quelle di domani mattina forse casomai le leggiamo allora, se volete. Cioè, vi indico soltanto che nella seconda ho messo soprattutto due risvolti. Cosa il messianismo di un... che cosa l'appello a Dio, a Cristo, supponiamo, introduce dentro a un popolo nel qualificarlo nella sua identità. Questa sacralizzazione è una maschera, è una mitizzazione, un romanticismo che gonfia, sono parole che ho trovato in giro, anche in un articolo bellissimo che completerebbe il discorso di Stefani nella rivista Xeo, dove c'è un articolo interessante, La singolare avventura di essere polacco, dove Jan Prokop dice che nel popolo polacco non c'è soltanto la corrente messianica, ma c'è anche la corrente buffonesca che critica quell'altra dichiarando la maschera, dichiarando il romanticismo. Che cosa introduce l'appello a Dio, l'appello a Cristo, il messianismo religioso all'identità di un popolo dentro un popolo? E seconda domanda, viceversa, che cosa un popolo introducendo, cioè appellandosi a Dio, quasi introduce in Dio? Pensate al problema della guerra. Questo assolutizzare le proprie passioni, i propri conflitti in nome di Dio, non sacralizza le passioni umane, i conflitti umani in maniera... Alcune domande praticamente del secondo. Nel terzo, quale concezione di Chiesa? E lì ci sono i problemi, pagina 18, di aggregazione, di appartenenza, di identificazione, l'appello all'identificazione culturale, all'identità ecclesiale, ai luoghi, come valutare, a pagina 19, i luoghi e i ruoli di preminenza, di precedenza di alcuni popoli. Si può pensare, pensate a un problema, a una alternanza di primati, anche a livello ecumenico, si parla del primato, non più in termini del Papa solo. Il primato è una categoria storica, geografica, i primati. Adesso è vero che a livello ecumenico si dice perché Roma? E perché non Roma, dicono gli altri? Cioè praticamente la relatività anche di Roma potrebbe far pensare domani che Roma diventa una sede titolare, come tanti vescovi sono titolari. Quindi c'è da tener conto, probabilmente domani, se avanza, diremo, il cristianesimo come se lo figura Don Bilman, l'idea che bisogna dar spazio ad altri luoghi preminenti, ad altri fattori. Allora, questa alternanza, poi la connessione sacro e profano, poi come rapportarsi rispetto alla società più grande, non anticipo, però ho voluto soltanto spacciettare alcune domande per mostrare l'interesse di questo problema. E finalmente il pomeriggio di domani, la quarta, il rapporto tra autorità e coscienza, ma non a livello così breve, ma letto nello specchio, se volete deformante o amplificante, del rapporto leader di un popolo messianico, dove avviene un processo di identificazione, pensate il nostro Papa, tra le masse e il popolo, o chi vuole essere massa e popolo, con un leader che gestisce quasi la coscienza degli altri. Sono problemi veramente tremendi e forti. Quindi dove ne va la collegialità? Dove va il rapporto dell'autorità? È quasi migliore un'autorità precisata giuridicamente o è migliore un'autorità carismatica gestita su questo livello? Sono tutti problemi grossi. Come vedete, li ho spacettati, non è che dobbiamo risolverli tutti, ma se uscissimo da questo convegno con una sensibilità nuova, sarebbe già un modo più ricco di fare teologia, di essere anche credenti dentro la Chiesa per noi. Ecco, scusate queste parole introduttive che volevano creare la sensibilità. Adesso abbiamo fino alle 7:15, dunque abbiamo 2 ore, la possibilità di fare un dibattito. Sarà lento, faticoso, perché il primo con il quale noi probabilmente con confusione affronteremo tanti problemi, ma sarà forse quello decisivo anche per il buon esito della giornata di domani. Sono arrivati gli altri in questo momento, da Grazie Ferrara, poi Padova, sì, altri dei relatori, nessuno arriva ancora, no? Vabbè. Allora ringraziamo Don Fabri, che introdurrà lui con una prima sua reazione. Realmente è solo una reazione, ma sì. Mi trovo a mio agio dopo questo avviamento. Il motore credo è già caldo, anche il sole pensa a illuminarsi alle spalle almeno, anche se davanti non abbiamo ancora lo splendore della soluzione, ma almeno le spalle illuminate e ci muoviamo verso il futuro partendo dalla illuminazione della creazione, no? L'immagine che mi ha colpito di più è quella bellissima dell'angelo che guarda la storia rivolto verso il futuro, ma però con gli occhi di una storia che dove si stanno accumulando i ruderi. Chi è quell'immagine? Nel slipper o il pittore? Il pittore è prima. Benjamin. Che scappa di fronte al lavoro. È impressionante questa, l'angelo della storia, no? Non è qui, è Clay. È importante dirlo, perché comincia. diciamo come si parla di americanizzazione anche dei non americani. No, ma da dov'è lui? Ha uno svizzero. Bene, grazie. Allora ognuno ha il suo. È svizzero. Io volevo partire, dunque, originalità del messianismo biblico cristiano con un tentativo, che è solo un tentativo per smuovere le acque, di non definire ma descrivere il messianismo dopo aver letto il dossier, aver riflettuto un po' su questa esperienza o concezione biblico, ebraico, cristiana, tentare di proporre in forma di ipotesi di lavoro. È una visione della storia, è una coscienza individuale o di gruppo, gruppo storico, gruppo sociale, è una variante della religiosità o della trascendenza, la coscienza messianica, il messianismo. Allora propongo tre elementi che entrano nel messianismo non definizione, ma che vedo presenti per poter definire e distingue il messianismo dal profetismo, dall'apocalittica o dalla speranza, no? Sono possibili. Allora, il primo elemento, l'apertura al futuro, è un futuro salvifico e definitivo. L'apertura al futuro salvifico, definitivo. Quindi questo aspetto di tensione, di dinamicità, adesso non dico se è la storia, il popolo, l'individuo, dico la tensione al futuro salvifico e definitivo. Non metterei in questo primo elemento la crisi o la sofferenza come elemento determinante, anche se noi ritroviamo in essenza ebraico, in alcune correnti, in altre esperienze di gruppi oppressi, che non credo che sia elemento qualificante, la crisi o la sofferenza, come il detonatore, l'elemento scatenante, ma non determinante della tensione. Questo è un primo elemento. Credo che sia questo distintivo rispetto al religioso generico, al politico utopista o al sociale progressista, al culturale aperto, non so, ecco, l'apertura al futuro salvifico definitivo. Secondo, questo ancora più qualificante, il ruolo del mediatore. Questa categoria la riprendo in parte da Pierre Grelot, dove in questo libro La speranza ebraica al tempo di Gesù, lui più o meno riduce il messianismo alla concezione di mediazione del mediatore, per unificare la caleidoscopica visione di messianismi biblici e giudaici contemporanei e inerenti successivi alla vicenda cristologica o cristiana. Il mediatore unifica per esempio il messianismo nazionale monarchico, quello profetico, quello sacerdotale, quello che non è legato a queste tre istituzioni e diventa il messianismo vagamente antropologico che proietta nel figlio dell'uomo che viene dal mare o viene dal mondo di Dio i simboli sia regali, sacerdotali o profetici. Il ruolo del mediatore come simbolo catalizzatore di questa tensione verso il futuro. O apertura al futuro. Nel mediatore io collocherei sia il mediatore individuale come il mediatore collettivo e qui farei entrare il popolo messianico, mediatore rispetto a altri gruppi sociali o nazionali, o chiamiamoli popoli, parlo in termini generici di gruppi. E così anche riguardo al modo come viene costituito il mediatore, attraverso la forma carismatica o quella istituzionale, non vedrei importante questo. Allora, il mediatore sia individuo o collettivo, di un gruppo all'interno di una nazione o di una nazione o popolo rispetto ad altri popoli. Quindi nel mediatore metto il collettivo o l'individuale. Terzo elemento, su questo sono meno sicuro, io metterei, ho incominciato con l'apertura al futuro determinato, però il qualificante è il mediatore. Il radicamento nella storia, che distingue dall'escatologia, dall'utopia e anche dall'apocalittica. Cioè il messianismo mi pare che ha una componente qualificante, questo aggancio con la terra, con la nazione, adesso non so se parlare di razza o etnos, comunque la l'etnia in qualche maniera, l'etnia la metterei, insomma, non nelle... sono più perplesso nel vedere questo radicamento nella istituzione potere, cioè come strumento, ma radicamento storico lo vedrei come un elemento qualificante per distinguere il messianismo adesso dal semplice utopia, dall'apocalittica o dalla speranza che proietta la propria attenzione verso il futuro e la elabora in maniere sociali, religiose, culturali, eccetera. Questo è come quadro di riferimento, così dopo si può discutere se, per esempio, i fenomeni africani sono più una linea carismatico, profetica, se sono io ho molte perplessità sul definire messianici, la tensione alla guarigione, per esempio, no? I tre elementi, guarigione, che più o meno è la taumaturgia terapeutica, il carismaticismo in forma di profezia, che questo poi diventi leader, ma non vedrei, il problema del messianismo, alcuni elementi, ma non del messianismo, che dovrebbe avere i componenti complessi, e io le vedrei in questi tre, si possono aggiungere altri, togliere, insomma, si può discutere. Veniamo al tema, originalità del messianismo biblico-cristiano. Il messianismo biblico consta di una duplice relazione al Dio uno e unico, e qui la elezione alleanza, e l'altra relazione al popolo discendenza terra, perché non posso separare il popolo dalla continuità e dalla stabilità, cioè riferimento a un luogo, spazio, la terra. Questa duplice relazione tra il Dio unico che sceglie, fa un patto o fa un impegno, meglio, con il popolo nella continuità della stirpe, quindi l'idea della continuità è sulla terra, legato a un spazio, e viene mediato o rappresentato, come volete, da istituzioni individuali o corporative. Questa distinzione nell'ambito biblico tra l'individuale e il corporativo non è così netto, perché il re è rappresentativo della comunità, e l'alleanza con Davide è nato che la trasposizione dell'alleanza sinaitica in forma monarchica, così riguardo al tempio sacerdozio, così riguardo alla profezia e quindi i profeti. Quindi la triplice forma del messianismo biblico, regale, sacerdotale e profetico, sono unificati dentro questa duplice relazione di Dio con il suo popolo, mediata, sono i mediatori, insomma, istituzioni e personalizzazione della mediazione. Se va bene questo per il messianismo biblico, vengo alla novità cristologica, che poi diventa cristiana e ecclesiologica. Cristologica, cristiana e ecclesiologica. Io vedrei la novità cristologica, sulla quale si innesta, dentro la quale sta quella cristiana ed ecclesiologica, no? Primo nella trascendenza del mediatore. Per me l'elemento qualificante non è la sofferenza, l'ho già detto, quello è un elemento storico, perché nel messianismo ebraico, credo che sia il figlio di Giuseppe o di Efraim, meglio il messia di Efraim o di Giuseppe, ha una componente di sofferenza, ma il popolo viene visto come povero messiano nella sofferenza, quindi non lo vedrei caratterizzante della cristologia cristiana la sofferenza, ma la trascendenza che direi trascrive in termini cristologici l'unicità di Dio o del rapporto Dio-popolo. E qui credo mi riferisco a un testo ben noto a voi di Atti 10:36, discorso di Pietro, proprio per fondare la universalità parte dalla trascendenza messianica. Mi riferisco al testo senza stare a citare direttamente della Bibbia. Mi sono reso conto che Dio non fa distinzioni di persone, ma qualsiasi uomo, a qualsiasi popolo appartenga, a lui eccetto, gradito, purché tema Dio, riconosce, e pratica la giustizia. Poi avviene l'introduzione all'annuncio, egli ha fatto arrivare la parola di Israele, l'annuncio della pace, per mezzo di Gesù Cristo che è il Signore di tutti. In questi due titoli, il Cristo, che si collega alla grande speranza biblica, il Signore di tutti, io vedo trascritta la trascendenza, quello che Flusser nella introduzione alla teologia cristiana dell'ebraismo di Clement Thomas. E lui chiama il Messia trascendente, la trascendenza messianica, che poi possa essere discussa, eccetera. Io vedrei questo un elemento qualificante, cioè il Messia trascendente, il Signore di tutti, il Cristo che è il Signore di tutti. Collegata con questo la universalità, ed è ancora il discorso di Atti 15, 14, 18 questa volta, il discorso di Pietro, ma soprattutto quello di Giacomo, che fonda, la prospettiva lucana, non adesso il problema Giacomo, Pietro, sono figure rappresentative della Chiesa storica, delle quali si serve Luca per la sua visione del processo salvifico e della cristologia. Simone dunque ha detto molto bene, qui bisogna che vi leggo perché è troppo preciso per essere. Atti 15, 14 fino al 18 dice così: quando essi ebbero finito, Giacomo aggiunse: fratelli, ascoltatemi, Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani, popoli, etne, ecton, etnon, un popolo, etnos, per consacrarlo al suo nome. Dunque, la concezione di Luca, che poi in parte anche quella di Matteo, l'etnos è formato dai popoli e da Israele, che non è più un popolo speciale, ma forma l'unico etnos assieme agli altri popoli. Questa è la universalità qualificata rispetto alla universalità potenziale della linea profetica e della diaspora giudaica, con tutto il fenomeno di missionarietà del primo secolo, come universalità centrifuga rispetto alla universalità centripeta di Isaia 2. Verranno i popoli al monte Sion. Trovate anche in Michea, quindi una tradizione perlomeno dell'antica, non credo, solo post-esilica. Allora, universalità centrifuga della Chiesa costruita dalle genti e da Israele, o meglio, la Chiesa impiantata tra i popoli. Adesso non so se si può trascrivere la immagine che ha Luca, un etnos dai popoli, dalle genti, con l'immagine, di fatto poi lui racconterà come l'Evangelo viene impiantato con l'opera di Paolo tra le genti, e non c'è bisogno che diventino giudei attraverso la circoncisione. Problemi aperti e interrogativi da questa originalità biblica, il Dio unico e il popolo, la trascendenza e l'universalità nella originalità cristologica, che diventa quella ecclesiologica e cristiana. Primo problema, all'interno della Chiesa, come popolo messianico. Esistono due elementi in tensione dialettica nella Chiesa come popolo messianico. La prima tendenza ad estinguere o controllare in termini istituzionali il messianismo. E questo in nome dell'unico Messia, Gesù. Se Gesù è l'unico Messia, nella Chiesa non c'è più spazio per Messia concorrenti. Gesù trascrive l'unicità di Dio, dunque nella Chiesa diventano sospette tutte le figure che tendono a contrapporsi o a diventare. Accanto a questa estinzione o controllo istituzionale, io direi che questo viene assunto dall'istituzione, che diventa l'unica garante, gestrice, l'unico gestore del messianismo, autorizzato. Dall'altra, come tendenza, l'espulsione del messianismo o della corrente calda, di Locco Mancini, nella periferia, cioè tutte le tendenze zelote e apocalittiche vengono emarginate ancora in nome di una Chiesa tradizionale, unica garante di questa fedeltà al messianismo. Queste sono le due tendenze. Esiste una situazione mediana senza queste due, l'estinzione e controllo, espulsione che è lo stesso, cioè la riduzione del messianismo all'istituzione, unica garante non solo, ma che possiede il messianismo o lo interpreta a nome dell'unico Messia Gesù. La Chiesa in rapporto agli altri, o altri intendo nel senso molto ampio, non solo di gruppi, popoli e nazioni, ma anche istituzioni e forze storiche. Perché il problema, quello che Don Luigi diceva, il rapporto Chiesa-Papato, Chiesa-Impero, oggi è Chiesa-Mondo, solo che è cambiato il progetto, ma il problema è allora, rapporto con Israele, io sono convinto che Israele rimanda alla dimensione carnale, alla nazione, alla terra, alla cultura, quindi all'incarnazione della Chiesa, il radicamento con Israele. Mi domando, è solo una radice storica oppure è una radice teologica, quindi permanente, perché il popolo cristiano sia popolo messianico, dal momento che io ho messo tra i connotati delle qualità il radicamento storico. Se noi ci stacchiamo da Israele, non siamo più popolo messianico, quella componente, che radicamento nella storia, che vuol dire cultura, inculturazione, eccetera, con l'assunzione di tutte le etnie. Le soluzioni storiche sono state quelle della separazione conflittuale e quella della coesistenza tollerante. Esiste una soluzione diversa che tenga conto non solo della radice storica, ma della radice teologica di Israele? Il secondo problema, rapporto con gli altri, i popoli. Per popoli intendo, oltre le configurazioni nazionali, anche i mondi culturali. C'è qualcosa di più vasto, forse non sempre riusciamo a stabilire il dialogo con popoli ben definiti. Qual è il rapporto? E qui allora definirei questi mondi culturali, quelli a matrice messianica religiosa sacrale e quelli a matrice messianica laica o secolare. Poi la distinzione all'interno pluralistico del mondo occidentale o anche orientale o del terzo quarto mondo è più problematico. Allora qui le domande sono quelle, però io vi le pongo in termini molto più, non ho una soluzione, le avverto come problematica. Mi domando se è finita la missione, o meglio un modo di missione. Il problema del rapporto Chiesa e altri popoli è stato risolto nel passato in termini di missione, e quelli che non erano missionabili erano esclusi, tagliati fuori. Quindi l'inclusione o l'esclusione. A parte tutte le proposte di dialogo, scambio, reciprocità, quale modulo o modello di missione nel corretto rapporto tra Chiesa e gli altri popoli, una volta che si è valorizzata e scoperta la matrice messianica, sia religiosa come quella sacrale, una coesistenza pluralistica, un camminare tutti verso un messia o un mediatore messianico che è prima e sta davanti e non è monopolio di nessuno, qual è il rapporto allora della Chiesa che testimonia il messianismo storico originale, quello trascendente e universale, in nome di quella universalità, con il messianismo degli altri popoli che hanno altri mediatori? Io non ho un modello preciso, sono convinto solo che il modello di missione praticato in passato e che con fatica gli istituti ai quali noi abbiamo delegato la missione e stanno praticando oggi è qualcosa che deve essere modificato, cambiando prima di tutto le ragioni profonde di carattere teologico, ma anche culturale e storico. Grazie, e questa di questo modello di lettura, ecco, un modello di lavoro per noi, riletto, ripensato, anticipando qualche cosa, direi da dirottare il problema della Chiesa di domani e forse all'interno della Chiesa, poi insistendo sul carattere anche missionario dei problemi. Ecco, allora, di fronte a questa prima reazione, sentiamo se ci sono anche altre reazioni, non so, sintetizzando, oltre alle tre categorie dalle quali è partito, che hanno cercato di concentrarsi sull'essenziale, ma anche di tenere aperto, il discorso. Ecco, c'è il tema della mediazione, che penso interessante, e poi le due originalità della trascendenza e dell'universalità in senso centrifugo e non soltanto, non in senso centripeto. poi con le applicazioni, i problemi che ci ha dato, direi che soprattutto quest'ultimo, anzi all'inizio, quella estinzione, il controllo istituzionale e l'espulsione sono categorie da tenere presenti, e in fondo questa discussione sul nuovo modello di missione. Qui è presente Carmine Di Sante, che deve gestire, altrimenti ne va del suo nome, il problema, diciamo, di Israele per i cristiani, Israele per la Chiesa e Chiesa per... Poi abbiamo, direi, l'eco di ciò che sarà il dibattito di domani su questo messianismo universalizzato, anche non solo religioso. Quindi ci sono parecchi qui che potrebbero dire qualche cosa. Tu vuoi dire? No, chiedo scusa per una piccola interruzione di carattere pratico e tecnico che non posso rimandare. Intanto ci pensino quelli che hanno pensato invece a reagire al discorso. È per la messa di domani mattina. È per la messa di questa sera. Per la messa stasera noi siamo in centro e dunque siamo in pieno centro citante domani mattina, no? Allora, il posto più comodo da lì per la messa è il Duomo. Lì c'è una messa alle 7:15 e c'è una messa alle 8 con le lodi prima alle 8:15, praticamente finisce poco prima delle 9. Ecco, lì potremmo concelebrare ad ambedue queste, l'una o l'altra, io vi lascio scegliere, avrei a caro però di sapere la vostra decisione e presta poco anche il numero, a ciò che possiamo predisporre. Tra un poco, intanto pensateci dietro le ombre del meccanismo. Non è così difficile come le domande che ha posto il senatore. No? Difatti il sole è scomparso, mentre quando ha iniziato Don Fabris il sole è venuto a radiare. Gli altri anni, richiamo solo che dopo ci faremo la... Gli altri anni abbiamo anche lasciato un po' libera la messa, perché ciascuno poi può anche prevedere di partire alle 5, alle 6, arriva a casa, forse dice messa. E abbiamo moltissimi, l'anno scorso hanno detto messa alle 7:15 di solito, mi pare la maggior parte. Se c'è qualcuno? Cosa? La messa? Una volta anche mezzogiorno, sì, ma non ci conviene, sì. E a questo si collegherebbe l'orario del tram per il però che non dobbiamo sbagliare, dobbiamo insomma, concatenarlo bene, altrimenti perdiamo poi mezz'ora. Va bene, allora non so qui se c'è qualcuno che già vuole interferire. Se tu, Carmine, ti trovi, tu creici biblistica ormai, prima i biblisti e poi i tutori dell'ordine del rapporto Israele-Chiesa. Tu crei? No? Ha detto fra poco chiederemo. Cosa hai detto tu? No, ne basta per le 7 poter avere una risposta a questo. Andiamo subito? Allora, per aver capito che propendete per anticipare. No, adesso sono Alle 8:15, vuol dire che prima delle 9 non possiamo essere qua. Prima delle 9:30 non si comincia in questo caso, è chiaro, no? Anzi, piuttosto dopo che prendete un quarto. 7:15. Allora, messa alle 7:15, quanti prevedono di convenire a questa messa? Come sono destina mi da farla conta. Fai qualche tanto, qualche tanto. Io un po' sì, una messa un po'. C'è da un lodi per il Quanti? Va bene, va bene. Se la lodi canta bene. Se il resto ci adegueremo 4 ore prima, possiamo parlare del catena, ma Menestrino, da qui con cosa partiamo? Con pulmino o le macchine? No, stasera. A che ora? 7:15? Dunque 7:15, gli orari per discendere da qui mi pare sono alla mezza, no? Da qui alla mezza, allora in giro o alla mezza? Sì, ma dobbiamo andare giù, prendere il tram alle 7:30 o alle 8, così qui. Vediamo quante macchine ci sono a disposizione, forse. Io ho una macchina. Ecco, andiamo giù in macchina alle 7:15, allora partiamo da qui e arriviamo lì alle 8, o no? Va bene, allora se ci sono dei biblisti, do la parola prima ai biblisti e poi eventualmente agli altri. Tu credi? È anche una osservazione biblica, ma credo che veramente un fantasio la tengo visto la chiesa e per senso questo è ambiguo per termine messianismo popolo messiano. Io direi che dobbiamo vedere subito, dobbiamo chiaramente distinguere l'aspetto non fantasio di anima. Noi direi non dobbiamo proprio abbandonare il termine ambiguo e solenne. Altri due possono più concreti, cioè distinguiamo il messianismo che la fede del messia, messianismo che è senso di una missione verso gli altri. Se volete, nell'epoca moderna il messianismo tutto del quale si parla non è assolutamente appeso del messia, ma è il senso della missione verso gli altri. Invece quello del messianismo africano è tutto la terra del messia che deve venire o è già venuto. Per il popolo ebraico dell'Antico Testamento, io ci sento, ma ci c'è qualche elemento, ma ci sono moltissimi elementi che si sente che per il popolo messianico che ha una missione verso gli altri. Un popolo messianico nel senso che si attende alla messia, il messiano, al massimo si sentono popoli. Popolo eletto, ma non con un compito verso gli altri, se non in qualche modo. Se non facciamo già la lettura cristiana di tutto il problema, ma già. Si trovano poi, certo, non so, nel primo, secondo secolo avanti Cristo, anche che si sente in certo senso portato. Avere una missione verso gli altri. Ma è una cosa piuttosto marginale. Però mi domando, non dovremmo un pochino chiarire, diciamo, forse scegliere due termini diversi per non confondere. Qualche volta, poi, chiesa cattolica in qualche modo questi due elementi non incontrano, ma no, la chiesa cristianica principalmente, in quanto si considera di aver ricevuto messia. Soltanto attenzione, non sempre si è sentita messianica verso gli altri popoli, perché è, diciamo, senz'altro nel senso ma non sempre nella storia chiesa, la Chiesa veramente si sentiva messianica. Altri biblisti su questo discorso che ti arriverà ancora allora? Che vorrebbe quasi togliere il vocabolo e applicare piuttosto due altri vocaboli, atteso di Messia e diremo senso della trasmissione. Poi addirittura relativizza il messianismo dell'antico Israele come se non ci fosse, se non tardivamente e sporadicamente in maniera periferica. Cioè messianismo diciamo. Popolo messianico. Sì, il popolo messianico. Per me è strano, perché se prendo il figlio che è alla base del mio insegnamento di teologia dogmatica, vedo che fa un capitolo lunghissimo sulla coscienza di Israele e sul meccanismo dell'Israele in rapporto agli altri popoli, proprio di Israele come tale. Mi sembra un po' strano che biblicamente sia così rarefatta la base teologica di questa concezione. D'altra parte, il capitolo secondo della Domum Gentium parla chiaramente della Chiesa popolo messianico in rapporto al nuovo popolo messianico. Quindi presuppone il popolo messianico dell'antico Israele, ma non lo caratterizza mai solo come atteso del Messia, come il nome del Messia, anche come, adesso vorrei sentire i biblisti, se ci sono altri biblisti, che queste ne sono alcuni, oltre che padri. Io penso che alcuni problemi riguardano anche il tempo in cui Israele ha vissuto. Per esempio, ritengo che tutto il regno davidico che inglobava altri popoli fosse più chiara la coscienza, diremmo, di una funzione di Israele nei confronti di altri popoli. Sto pensando che, non so, la tradizione eruista, il Deuteronomio, forse non hanno molta. Ma anche no, il Luca non sembra avere tradizioni pre-abramitiche, quindi non sembrano molto concentrate sul discorso del loro rapporto nei confronti, sono un po' più ripiegate su se stessi. E quindi credo che bisogna anche distinguere i tempi nei quali Israele ha vissuto questa dimensione. Sì, vorrei più che fosse un dialogo, sentiamo alzando forti. No, perché questo problema però è di terminologia, va chiarito fin dall'inizio, non so se è il caso di spendere una parola su questo. Prego, Armindo, sì. Io radicalizzerei l'intervento, nel senso che il termine messianismo non è un termine interno al vocabolario di quel termine messia, anche lì, no? Che però è applicato a tante figure, eccetera, eccetera, quindi su cui non si può fare davvero leva per trarne una configurazione su base filologica. Cioè il termine messianismo è già un termine secondo, non è un termine primo. Ora, già sul termine primo, cioè già presente nel monografico, grazia, relazione, fede, eccetera, eccetera, è un mare magico, no? Perché appunto bisogna fare la storia del termine, mi fa esistere, tanto con un altro che parla di nome di una lettura, di un'altra cosa, vuol dire già nel termine di questa biblica c'è una problematicità a dire cosa sono, che rende estremamente complesso la contatto. Figuriamoci poi un termine che è secondo, perché non è biblico. È un termine, vale a dire, che rappresenta già una coscienza riflessa. Vale a dire, ecco, direi oggi, la coscienza del teologo, la coscienza dell'antropologo, dell'etnologo, eccetera. Perché il teologo allora sarà portato a combinare, a vedere quanto si può dire, non si mette il flusso del discorso del giudicismo nella bipolarità, un Gesù comunque in una certa bipolarità, ma Israele di Gesù. L'etnologo invece prende come avvolge il messianismo ebraico, il cosiddetto messianismo ebraico, dentro invece il grande mondo dei cosiddetti messianismi del messianismo, no? Del terzo mondo, non del terzo mondo. Allora, qual è la prospettiva più legittima? Cioè, a mio avviso, forse vorrei concentrare la parte del diavolo, no? Cioè che non so se sia legittima, prima di dire qual è l'accezione giusta di messianismo e messianico, addirittura forse il problema è che sia l'accezione giusta. O se invece qui ci sono tante accezioni legittime, quante sono gli universi di discorso che parlano di questo tema, ognuno dei quali lo usa legittimamente in una sua accezione. E riconosco legittimamente fino a quando non sia attento a non estrapolare tutto che fa la propria disciplina, no? In discipline altre e viceversa. Ecco, insomma, mi sembra un po' una nozione anteriore allo stesso discorso di me, una nozione di me. Io per andare avanti però in questo dibattito sui media, insomma, prendo anche il tuo spunto per dire che in fondo poi ti contraddici, nel senso che da una parte poni il problema, cioè accetti il problema della legittimità, però parli di universi che già la usano, quindi praticamente noi dobbiamo fare i conti sul fatto, e tu dici ognuno può essere legittimo, difatti noi abbiamo ormai quest'uso universalizzato, e chiunque abbia letto, se ha letto, il discorso fatto da Stefani, se ha letto il discorso del russo, del russo e poi del polacco, dove addirittura i titoli di libri sono del messianismo e questo eccetera, quindi ci sono degli usi. Adesso star lì non è il nostro problema di vedere la legittimità o meno, supponiamo che ci sia una legittimità di ciascuno, però a noi ci interessa adesso di fare i confronti non sui termini, ma sui contenuti, vedere che cosa è comune e che cosa è specifico, che cosa è originale e che cosa non è. Questa era la tematica sulla quale noi saremo invitati praticamente a discutere questa sera. Se c'è o non c'è una legittimità in coloro che l'hanno usato, è chiaro, dentro una certa loro, diciamo, coerenza, se c'è la legittimità di usare questo termine, se è trasportabile o se invece dobbiamo lasciare questi universi. Il messianismo di cui si parla quindi, nel mondo ebraico anche post-biblico, in confronto con il Cristo e la Chiesa. Il messianismo di cui parla la Chiesa di se stessa, i messianismi russi, polacchi, eccetera. Ecco, vedere se costoro che parlano sono universi incomunicabili o se invece c'è possibilità di comunicazione e di trovare eventualmente la originalità biblica e domandarci eventualmente se non sia il prototipo biblico che ha ispirato anche questa estrapolazione di concetti e di termini. Questa è la domanda che io farei, accettando l'idea però che rimane un problema, diremmo, di uso linguistico assai ben differenziato tra i vari contesti. Io spenderei una parola allora su questo problema di vocabolario, che non è solo terminologico, ma anche riguarda che cos'è, perché dietro le parole tendiamo a esprimere un'esperienza o una concezione dell'esperienza, una riflessione dell'esperienza. È vero che il termine Mashiach e Messia ha una radice ben precisa in un momento anche della storia del popolo di Dio, no? La elezione del primo re, la consacrazione, eccetera. Però già all'interno degli studi biblici, non dei testi biblici, ma degli studi biblici, noi parliamo di messianismo. Quindi, secondo, fino a un certo punto, il Copen, che ha studiato questo fenomeno, nei tre volumi comincia col messianismo royale, regale, che è vero, quello generatore, ma in termini storici. Ma credo che non è un'estrapolazione illegittima, quella dei suoi due volumi successivi, la rilevanza o l'aspetto profetico del messianismo, il messianismo profetico, e poi il terzo volume, il messianismo apocalittico, all'interno della Bibbia, fino al Nuovo Testamento. Ora, non credo che un'estrapolazione, una sovrapposizione, è un allargamento di quella figura di mediatore. Io credo che anche l'attualizzazione o attuazione storica della figura del Messia attraverso la istituzione re è una concentrazione, non esaurisce, perché io dico che era precedente la tensione al superamento, e lo vedrei nella genesi del popolo con l'Esodo, perché l'esperienza monarchica lo vedrei successiva, dopo Gesù, la rilettura dell'esperienza di Esodo passando. E quindi la radice profonda del messianismo biblico la vedrei con l'esperienza del popolo di Dio, concentrato a rappresentare il re, poi da quelle altre mediazioni, quella sacerdotale, profetica, o addirittura quella del figlio dell'uomo della tradizione danielica, che passa poi negli apostoli giudaici del primo secolo. Per cui vedrei legittimo non solo come estrapolazione o adattamento in universi ben circoscritti, ma all'interno del discorso biblico e quindi anche del discorso cristiano, parlare di messianismo. Poi il messianismo degli altri popoli, sono convinto anch'io che ha determinato, perché l'area nella quale si muovono questi messianismi, parliamo di quello russo, quello polacco, quello africano, poi anche nella loro genesi immediata. Mi domando se sì, è quello che sarebbe il problema dei messianismi dei primitivi, e qui non è stato esaminato, per esempio, i fenomeni messianici dei popoli dell'Australia, o non so se esiste una, che è fuori, credo, dell'area culturale cristiana, quindi del messianismo biblico cristiano. Tu, boh. Mi pare che a questo punto sia abbastanza chiaro che questi problemi sollevati devono essere di questo fatto: il termine messianismo rappresenta una struttura sufficientemente capace di accogliere sotto di sé una varietà di atteggiamenti, di tendenze, di concezioni, di attese, di figure storiche, che noi lo chiamiamo il termine messianismo. Mi pare che sia interessante da questo punto di vista il tentativo che ha fatto Fabri proprio di delineare alcuni tratti di questa struttura. Ecco, io sono d'accordo con quello che ha detto positivamente, vorrei sottolineare un pochino di più il tema della sofferenza nel messianismo, che tu hai messo mi pare un po' di secondo piano. Forse hai ragione a dire che, se dicevi che la sofferenza non è, diciamo, lo strumento messianico, ma mi pare che nel messianismo la sofferenza abbia una priorità come la condizione a partire dalla quale il messianismo muove. Vuole dire, il messianismo è un concetto, una realtà, una speranza che emerge sempre in una dialettica di perdizione e di salvezza. Lì nasce il messianismo. Ora, la perdizione è l'elemento sofferenza, e la sofferenza si caratterizza nel messianismo come il solo a partire dal quale il dinamismo messianico, la promessa, la chiesa, ecco, si imprigionano. Ora, dire questo, e dirlo soprattutto oggi, mi pare che debba portare a sottolineare un altro punto, che è questo. Noi oggi possiamo ancora definire il messianismo altrimenti che come un fondamentale e radicale atteggiamento etico? Avere una presa di posizione astrologicamente caratterizzata nei confronti del mondo, della storia, dell'esistenza del mondo. Come pare che sia questo, oggi, soprattutto, la caratteristica del messianismo che emerge? Parlare di messianismo significa rapportarsi dinanzi alla realtà puntando il dito, proprio contestandola, negandola e promettendo, attendendo almeno un superamento. Questo parte sono elementi caratterizzanti il messianismo, soprattutto nel contesto culturale attuale. E da parte del Messia, il tema della sofferenza mi pare che debba essere ripreso. Il Messia, individuale o sociale che sia, è legato alla sofferenza non soltanto come punto di partenza. Quelli sono il punto di partenza e caratterizza i liberati. Nel Messia, soprattutto nella società cristiana, la sofferenza è condivisione, scelta, discesa. Questo mi pare che sia un altro elemento caratteristico del messianismo biblico, del messianismo ebraico, del messianismo cristiano. E l'ultima osservazione è questa. Se noi accettiamo questo atteggiamento, che poi si completa col tuo, ovviamente, o completa il tuo, del messianismo, è necessario ancora ripensare un po' i messianismi non biblici, i messianismi non giudaici e non cristiani, proprio nella prospettiva del messianismo biblico e cristiano, direi nella prospettiva delle teologie del genesimo. Mi pare che proprio una riflessione attenta su queste teologie del genesimo mostra nel trapasso che avviene dal genesimo oggettivo al genesimo soggettivo. Noi prima interpretiamo i messianismi altrui come oggetto della nostra considerazione teologica, ma la nostra considerazione teologica conclude che qui un messianismo in qualche misura, in qualche modo autentico, e dunque un messianismo col quale si deve fare i conti in modo dialogico, e non soltanto come oggetto di giudizio, ma come soggetto di conto. Castese. Avevo anch'io appuntato una cosa proprio su questo, perché ho capito quando dice che non è un elemento qualificante. Se per lui la trasmessa è forse l'elemento qualificante, io direi, facendo il mio voto, che forse l'elemento, il segno storico, no, di un messianismo, che è comune, è proprio la sofferenza. Comune a molti messianismi, e questo lo pongo forse anche in verifica, per esempio, abbiamo visto il messianismo ebraico, il messianismo polacco, per esempio qui ricordo la teologia di Lutero, che allora è un'interpretazione di Dio, qui aggiungerei qualcosa di profetico, e forse ecco, la sofferenza, la croce, no? E quindi ricordo qui se alla sofferenza noi dobbiamo dare anche questo elemento profetico, mi ricordo il titolo di Lorenzo, sì. Come? Il titolo di Adriano, non muore. Sì. Io vorrei appunto interpellare, qui abbiamo anche la signorina che ci vedete qui in piedi, è un'apostola del rapporto con gli ebrei, dialogo ebraico-cristiano, non ricordo più il cognome adesso. sor Antonietta, ecco, Thomas, delle sorelle di Sion. Questo problema io lo penso importante, questo qui, è uno dei punti, tra i 3-4 importanti. Mi domando addirittura, dunque non soltanto ha detto lui che è comune, difatti quello polacco, quello russo, quello armeno, quello armeno, se ci fosse stato qui avrebbe sostenuto lo stesso. Quello ebraico. Poi, sì, volevo dire che poi anche nella scuola di Francoforte c'è tra l'uomo negativo, l'uomo dove si scopre. Però la domanda potrebbe essere questa, vuol dire che lui è questa. Lui si è posto in un giudizio di valore oggettivo, qual è l'elemento oggettivamente che qualifica l'originalità? Tu invece ti sei posto nel punto di vista genetico, che cosa fa sorgere, infatti è lui l'ha messo, però la mia domanda allora sarebbe questa, dei due elementi che lui ha messo come più originali, è la trascendenza o l'universalità? Ma no, perché, questo cristiano, sì, non la media cristiana. Sì, ma per me ciò che fa sorgere, diremo, il senso messianico, anche leggendo la storia di questi popoli, è il fatto che proprio l'escluso dall'universalità viene caricato da Dio, perché anche la sua coscienza già sente che perché il tutti sia valorizzato bisogna partire dagli ultimi, altrimenti diventa un discorso il tutti amati da Dio, diventa un discorso ideologico e astratto. Il tutti diventa concreto se soprattutto si parte da quelli che vengono emarginati. Allora, a livello genetico, si ritroverebbe la giustificazione che sono proprio le sofferenze e il fatto della esclusione dell'emarginato, il non uomo, il non popolo, che diventa, diremmo, la radice negli occhi, nello specchio di Dio, per rivendicare, anche accusando, come dici tu, rivendicare il diritto di avere un valore. E difatti, quali sono i popoli che rivendicano più? Quelli che non hanno altri valori, non la forza delle armi, non la forza della ricchezza, eccetera. Allora fanno appello proprio alla loro debolezza e alla loro miseria, ma nello specchio di Dio vedono veramente valorizzato in Dio stesso questo universalismo. Quindi allora la trascendenza diventerebbe un secondo momento rispetto addirittura anche alla universalità. Cioè, la domanda sarebbe questa, è prima l'universalità o prima la trascendenza di Dio? L'universalità di un Dio che valorizza tutti gli uomini, per cui allora il monoteismo ha un senso positivo, e non invece un enoteismo, cioè un Dio di un solo popolo che diventa più bravo degli altri dei. Abbiamo toccato un punto chiave. Tu? Chi è che deve parlare? Diani. Non converrebbe forse anche per essere sulla linea di ciò che Fabio ha detto, tentare di distinguere dentro una sezione comune, sotto questo termine, nel pianismo non mettiamo tante cose, cercare un po' di distinguere all'interno non solo forme diverse, ma anche forse fonti di motivazione diverse. Cioè, è tanto pacifico che tutti questi messianismi abbiano a che fare con la Bibbia. Un presupposto da accettare senza visione critica. O comunque vedere, non so, penso alle componenti che Carlis indicava, e sempre lui voleva indicare le componenti sulla linea della originalità biblica, esattamente, no? Ora, gran parte di ciò che oggi si usa dire quando si parla di messianismo, anche nel linguaggio più comune, fuori gergo, finta messianico, messianismi vari, eccetera, non ha forse una origine importante nel romanticismo, ottocentesco, in tutto il clima del 700 e dell'Ottocento. L'Ottocento mi ha colpito per questo caso, per esempio, quasi tutto ciò che qui si dice riguarda il 700 e l'Ottocento. Allora, non senti per esempio questo... L'Ottocento in che senso solo? Per esempio, la ispirazione, penso a Hegel, ma... per allargare il discorso, ad una concezione della storia e di un dinamismo della storia che è orientato, che cammina verso qualche cosa, e dove una filosofia e ideologie di questo tipo si connettono strettamente ai nazionalismi dell'Ottocento, no? E dove, per esempio, non sempre il fatto nazionale è collegato a questa specie di rappresentanza d'Italia di tutta l'umanità, ma può essere solo un fatto puramente nazionale. Non so, per esempio, se nel mondo armeno si ha questo concetto di universalità, oppure è semplicemente un popolo che è senza terra che aspira ad avere la terra, come deve essere nel paese, anche in molte cose. Può essere semplicemente nel fatto sionista, per esempio, è un popolo che aspira alla sua terra, quindi lo chiamiamo messianismo, ma è qualcosa di molto diverso da quei temi di trascendenza, di universalità o di il problema della sofferenza, che cioè non c'è, dipenderà anche dall'origine di questi fatti. È tutto il tema romantico che suggerisce questa concezione organica del cosmo, dell'universo, per esempio favorisce questo senso della vicarietà, di tipo mistico, no? Per cui una realtà o un popolo può assurgere non per vicarie giuridiche, ma per questa animazione organica del cosmo e dell'universo che è sentito come fatto vitalisticamente inteso, cui la punta di un certo movimento può essere pensata come la testa di un corpo unico che si muove verso una certa direzione. Non so, il polacco, per esempio, può essere anche un tipo. Cioè, penso che forse sarebbe utile se riuscissimo a distinguere proprio diverse impostazioni, anche contraddittorie tra di loro. Comunque, che hanno diverse fonti. E non partire dal presupposto di pensare così alla fine del tutto. Mi chiedo se fare il banale di essere giunto al futuro salvifico e definitivo, se non sia da recuperare anche proprio in relazione al futuro il collegamento con il passato, cioè come il paradiso salvifico, come recupero e con l'identità, forse parlare di anni adesso. Che rapporto ci sia, no, tra futuro e passato, a questo punto viene in mente qualche parte della Bibbia dove la salvezza del futuro viene prospettato come recupero di una identità di qualcosa di ma Stefano dimostra che è quasi prevalente la memoria, che pone il problema per gli ebrei, per l'ebraismo, e prevalentemente cioè, il futuro viene lasciato nelle mani di Dio, ma è la memoria che viene coltivata. Questo è interessante. Questo discorso. Tu no? Sante, però. Carmine, tu. Il problema di trovare un universo linguistico entro cui i diversi linguaggi nostri poi diventano significativi. Penso che la tipologia che ho offerto a Fabri si può metterci d'accordo di utilizzare una tipologia che sia ormai ampiata oppure integrata. Per quanto lo costa, vorrei integrarmi in questa maniera, che anche a me mi pare della conoscenza che ho per esempio la tradizione ebraica, meno indirettamente, che la sofferenza è un elemento qualificante della messianicità dell'ebraismo. Mi pare che l'ebraismo comunque, il messianismo ebraico sia caratterizzato da questi due o tre poli che vorrei accennare. Il primo è che l'insistenza è sulla era messianica prima ancora che sulla gente messianica. E quindi sulla era, cioè l'importante è che ci sia una umanità in cui veramente l'uomo e Dio secondo questo disegno di Dio. Questa è l'insistenza di fronte a cui il soggetto messianico passa in secondo ordine. È vero che storicamente ci sono stati vari soggetti messianici, regale fino a quello guerriero. Però fondamentalmente la coscienza ebraica mi pare che accenti l'era in quanto tale. E la figura diventa secondaria. Poi un altro punto mi pare che l'importanza del messianismo ebraico alla fine è Dio, il vero agente messianico. Che è la città di Pasqua, è proprio quella espressione, noi siamo stati salvati né da mano di angelo né da altri. Ma Dio è l'agente salvato noi. Quindi c'è quasi il superamento, direi, la trascendenza del mediatore che nella tradizione ebraica. E poi un'ultima cosa mi pare importante nel messianismo ebraico, l'insistenza sulla responsabilità soggettiva, personale. Cioè, la messianicità passa attraverso l'assunzione personale. L'era messianica ti dà quanto tu la fai arrivare. Quasi che l'era messianica ti hai colta. Però si aspetta la finestra della soggettività personale e collettiva perché questa entri e invada il mondo. Perché Dio già è lì che ha salvato e sta salvando il mondo. però ecco, vuole gli uomini, vuole la soggettività che si faccia carico di questa messianità. E quindi usare questi aspetti di uso. Io provo a reagire perché ho alcuni problemi. Sul tema della sofferenza, cioè, ho pensato prima di escluderlo perché ero tentato, naturalmente, Gesù. Il primo elemento originale, allora, gli ebrei attendono un Messia glorioso, trionfante, di successo, Gesù è un Messia sofferente, e sembrava l'originalità più. E allora io ho tentato di vedere se questo è un elemento storico che si è verificato, oppure è connaturale, indito, perché ci sia il messianismo. La riflessione che mi ha portato a vederlo come elemento storico e non qualificante intrinsecamente, questo è il problema, è che il messianismo come categoria ufficiale nella storia biblica nasce non nella sofferenza, lasciamo l'esodo per un momento, ma la consacrazione, il massimo dello splendore regale. Questa è la cosa, non nasce nella sofferenza. Non so se qui gli amici, i colleghi, sanno che per Mashiach e che tutta la proiezione dinastica sarà concentrazione del popolo, nasce non nel momento in cui Davide le prendeva, ma quando Davide si è insediato e si è nato e viene nata e gli annuncia. Qui viene, non so se vi rendete conto, ma questo mi ha fatto pensare. Non sì, un'interpretazione posteriore. Adesso, che il problema era dell'oracolo di Nathan e della sua. Allora no, vengo però. Sì, è vero. Però la formulazione, diciamo così, di una perfezione della stirpe è parte da questo momento glorioso e lo proietta nel futuro come segno della fedeltà di Dio. Allora, io accetto, diciamo così, la provocazione che mi sembra importante, non tanto la sofferenza, che la sofferenza per me è un momento successivo al limite, vengo al problema del limite, che è il limite naturale che richiama la trascendenza. Allora, la sofferenza la vedrei come coscienza del limite. Adesso mi domando se quando il limite diventa insopportabile, questo è l'elemento scatenante per che la trascendenza non sia solo qualcosa di esterno che mi trascina, ma diventa anche l'elemento propulsore della storia fino a far maturare questa corrente calda attraverso tutte le elaborazioni dei mediatori personali, collettivi, eccetera. Ma credo che sia l'elemento ancora che sta questa tensione tra il limite e quello che io ho chiamato futuro. Non ho usato né Dio né il termine regno, ho usato un futuro definitivo salvifico. Quando si parla di salvezza, evidentemente è salvezza da qualche cosa avvertito come non realizzato. E qui io farei entrare il limite, ed eventualmente un limite antropologico, cosciente, può entrare, ma non necessariamente perché ci sia la tensione al superamento, la sofferenza. Che si esprima al limite in termini storici, concreti, come sofferenza, non, sì, lo vedo, lo constato, ma non dico che è necessario perché noi abbiamo il sofferenza. Cioè immaginerei un messianismo anche senza sofferenza. Il progetto di Gesù, non credo che fin dall'inizio, parlando di regno, abbia incluso, anche se avvertiva i limiti, le malattie, l'alienazione umana, il peccato, eccetera, abbia progettato un messianismo sofferente, e la sua coscienza, la sua elaborazione, il suo progetto nasce dall'esperienza del limite, ma non ancora dalla, se non una sofferenza partecipata. Qui allora diventa quello che chiamavi la solidarietà, la condivisione. Posso dire che lei con il suo intervento lui ti conferma? Sì, ha letto lei, cioè sull'americano, mi ha fatto impressione enorme. I primi padri pellegrini erano arricchiti dalla teologia crucis, il disprezzo dell'uomo al pessimismo, e dice fino al 700 non c'è stato messianismo. Invece dopo, quando hanno capito che bisognava operare e non più a livello di abbandonare una sofferenza, ma di progettare un'America nuova, un mondo nuovo, allora è nato il messianismo. Quindi sarebbe un po' sulla linea sua, deve ancora concludere. No, era solo sul messianismo ebraico, Comunque questo Mario mi sono presente d'accordo. C'era Tracy prima. Sì, ma noi sentiamo la integrazione perché sì. Si può discutere su questo. Tracy. La potenza, la presenza, entra non nel meccanismo. Si chiarisce un pochino se proprio se volete abbandonare il termine meccanismo. Io dico in realtà, tra il meccanismo attivo e il meccanismo passivo. La sofferenza è un elemento che entra nel meccanismo passivo. Proprio quando si sta male, insomma, si attende il salvatore. Invece nel meccanismo attivo, che si proietta, insomma, che vuole agire, è quando proprio, diciamo, in qualche modo si sta bene. Il meccanismo del secolo scorso è proprio l'epoca quando la potenza brutta comincia a io credo che lo voglio sentire però dopo il rappresentante della Russia lì. Continua. Sì, allora diciamo la questione se c'è l'elemento della sofferenza non è proprio essenziale, ma insomma è importante è proprio vedrei distinguendo bene i due tipi di meccanismo. Il rappresentante russo, il padre Piovano, cosa ti pare tu? Dove sei? Bravo. Mi pare che nasce di un meccanismo russo formulato anche filosoficamente, nasce sì un momento in cui la Russia si trova in una situazione politica, storica di espansione e anche di apertura verso l'Occidente. Però anche da una riflessione su una certa crisi, quindi possiamo chiamarla anche questa parola crisi di sofferenza, cioè una crisi di certi valori. Proprio il primo, diciamo, rappresentante dell'orientalismo, proprio lui rilegge, proprio la domanda di cosa Dio pensa della Russia, rilegge la situazione della Russia, una situazione di crisi, cercando di vedere come si può superare, e lui vede una apertura saggia all'Occidente. È una riscoperta soprattutto delle radici cristiane. Mi pare che c'è in genere nel cristianesimo russo una situazione di sofferenza che dà la spinta. E da tutta la tua riflessione anche su quegli altri che hanno trattato nel cristianesimo russo slavo, emerge sempre da questa considerazione di un popolo che non trova cittadinanza presso gli altri popoli. Sentivo Yost l'altro giorno, è un popolo che non ha credito presso gli altri e vuole trovare credito. Ecco, nel senso del limite, ma non sentito solo in rapporto a se stessi e a Dio, ma rispetto agli altri. Santa Russia. Si pone il problema, siamo al XI secolo, il problema del posto che ha il popolo russo nella cristianità. E si riallaccia, è interessante, non al mondo greco-romano, ma al mondo ebraico. Lui fa il confronto col mondo ebraico e dice chiaramente che la storia della storia è solo quella di salvezza. C'è storia che in cui un popolo è eletto, diciamo, che non così, è storia della scrittura. E questa è tipica del popolo ebraico. Quindi non si sente escluso dal non aver partecipato a un'altra storia biblica. Questo è interessante. Per esempio, come invece al Bisanzio. Bisanzio apparteneva a un mondo greco-romano, quindi extra-biblico, da lì chiamato quel cristianesimo. E quindi in questo modo Ilarione, che era il primo metropolita anche russo, in nascita per tutti erano cresci, e l'unico fino dopo al 1400, la Chiesa russa ha quindi a pari diritto con le altre chiese cristiane. Una ricerca anche qua della propria identità cristiana, però ricollegandosi all'ebraismo. Mi confesso che quando ho letto queste tue pagine ho pensato a quel problema che oggi si sente nell'ambito missionario e anche ecumenico, ed è analogo. pensate, adesso lo mediteremo forse domani, la nostra Chiesa, il cristianesimo, è vissuto 2000 anni in Occidente con una espansione interna, per cui adesso, quando arriva in Africa, in India, in Asia, sembra dire, voi dovete partire dall'ultima conquista che noi abbiamo fatto noi qui. E noi diamo credito al diritto che hanno gli altri popoli di ricominciare da capo, ecco l'innesto di Israele. E questo è il problema che si viene posto in questo momento. È il problema di popoli, adesso io ho parlato solo in termini religiosi, cristiani, di popoli i quali si sentono dominati dagli altri, per cui la storia è fatta dagli altri e loro non hanno diritto di ricominciare a fare la storia. Allora ecco l'appello a una loro vocazione, un loro diritto di fronte a Dio. E questo è il discorso che facevi Darione, che tu hai raccontato un po' nelle tue pagine. Mi lascio fare una piccola domanda qui, non può questo risalire ad una certa proiezione diretta di categorie veterotestamentarie nei popoli del Medioevo? Perché se penso a quel che è successo nel regno di Francia, è fortemente analogo, cioè questa assunzione di forti categorie di Antico Testamento, compresa la decima e insomma, le unzioni, insomma, non abbiamo fatto cosa per ricordarle, che non sia un fatto analogo questo. Mi domando, ecco, solo una domanda. In questo caso è da vedersi più complesso il problema. Allora, è analogo al caso della teologia della liberazione, gli dice noi abbiamo diritto di far ricominciare le nostre chiese con l'Antico Testamento, l'Esodo, eccetera. Tu volevi? Abbiamo professor Prandi. Ma io il mio intervento sarà breve, forse sarà anche confuso. Io vorrei rovesciare la situazione. Perché parliamo di popoli? Non parliamo dei popoli non messianici. Cioè, prima abbiamo parlato come se il messianismo fosse una realtà teologica, culturale, che investe in un reticolato intero ecumene, quando in realtà ne ha occupato soltanto una parte. Il problema che mi pongo io, che è un problema forse teologico, ma io non sono un teologo, è un problema certamente di tipo storico-religioso. E io mi chiedo, ma quali sono i caratteri culturali, teologici, storico-religiosi, per cui ci sono popoli che non hanno conosciuto la tensione messianica nella loro esperienza? E direi che il popolo egizio, per esempio, non l'ha conosciuta in modo radicale, e così i confuciani, e così l'ambiente induista, e così l'ambiente buddista, e così in genere le religioni politeistiche. Quindi c'è tutto un ampio settore di esperienze religiose di grande rilevanza, anche per i teologi. Giovanni Paolo II l'ha detto poco fa, di fronte a Giovanni che stava seduto, che non c'è nemmeno a sé, convinto della propria ricchezza culturale, perché era quello la prima cosa. Ecco, io mi chiedo se non valga la pena, quindi, vedere quali sono, se esistono degli elementi discriminanti per cui in certi settori storici, in certi settori religiosi, a un certo punto scatta la tensione messianica e in altri invece questa tensione messianica non scatta se non per esportazione o perché intervengono dei fattori. Mi riferisco ad alcuni elementi che forse sono poco significativi. Mi riferisco per esempio alla religione misteri. Religioni misteri che nascono a margine dell'esperienza greca e romana in un momento in cui le religioni ufficiali si collegano strettamente con lo Stato, assumono un carattere strettamente civico, alcune frazioni o larghe frazioni delle popolazioni se ne sentono escluse, esprimono tensioni di saldezza che non sono più realizzate all'interno della religione ufficiale, ed ecco espandersi le religioni misteriche che in qualche modo esprimono delle tensioni di salvezza e quindi hanno anche un carattere per certi aspetti negativi. Mi riferisco all'altra situazione marginale, per esempio alle popolazioni, ad alcuni gruppi andini che a un certo punto iniziano una grande marcia verso il mare e vanno alla ricerca della terra senza mare, che sarà al di là del mare. Quindi una speranza di avere in un altro luogo e in un altro tempo, no? Una salvezza che in questo luogo, in questo tempo, non ha la possibilità di avere. Ma ci sono un po' alcuni, come dicevo, l'Egitto, ma l'Egitto è caratterizzato da un profondo e sistematico terrore della storia. Il buddismo è caratterizzato da un rifiuto della realtà, tant'è vero che l'espressione massima è l'estraniamento, lo straniamento totale della realtà, quindi la non capacità di agganciare la realtà. L'induismo il confucianesimo è essenzialmente un'etica di rapporto pressoché tranquillo con la realtà, una capacità di comporre armonicamente il rapporto uomo-natura, uomo-società. In sostanza, in tutte queste espressioni, tensioni messianiche non ne conosciamo. Ecco, io colgo tensioni messianiche addirittura in modo privilegiato là dove esiste una religione monoteista. Questo mi pare che sia un fatto importante. O là dove questa religione monoteistica attraverso i suoi strumenti è venuta contattando altre realtà. E questo è l'esperienza dei meccanismi africani senza la presenza missionaria non avrebbero elaborato un sistema. Ecco, giustamente viene il dicevo, guardiamo se esistono dei meccanismi oltre. Io sono convinto, pur non essendo un teologo, pur facendo il molesto mestiere del teologo delle religioni, che i messianismi si innescano là dove in qualche modo una presenza cristiana nel bene o nel male è intervenuta. Questo ho questa impressione. Vale a dire, per presenza cristiana intendo una presenza nella quale si introduce una tensione di tipo salvifico e una concezione del tempo che spessa in generale la concezione lineare e introduce una concezione della concezione ciclica e introduce in generale la concezione lineare. Ed è, forse ho anticipato quello che volevo dire domani. Questo mi pare che siano questi alcuni elementi su cui occorre discutere. Secondo elemento che chiedeva Fabrice, se è finita la missione. Ecco, io ho un po' i denti avvelenato, Don Menino sa, nei confronti di tutto il discorso missionario, perché lo vedo essenzialmente da un punto di vista storico-antropologico. E non faccio la vecchia e superata e solita recriminatoria, i missionari erano al seguito del colonialismo, cioè non è questo il luogo di un dibattito di questo genere, per me è molto più radicale e più profondo. Il problema è di chiederti se qualsiasi religione, qualunque essa sia, si senta convinta di essere portatrice di una verità nei confronti di un'altra religione, di un'altra cultura. E se questo non sia radicalmente un atteggiamento anche teologicamente imperiale. Quindi, con tutta la convinzione di essere nella verità, in realtà il discorso verso gli altri, l'apertura missionaria, anche se se ne cambia il metodo, e molti missionari lo stanno mutando, pagando anche di con la vita spesso, perché qui non si fa il progetto alle persone, perché la storia missionaria è ricchissima di esempi luminosi, ma è proprio la posizione profonda, cioè che rapporto c'è fra teologia e ideologia nel rapporto missionario, che rapporto c'è fra etnocentrismo e teologia, ecco, che rapporto c'è, quale possibilità c'è, questo è un discorso profondo, Le missioni sono sempre, quale che sia la liberazione qualsiasi da ogni ipoteca di tipo colonialistico, un tentativo deculturale. Scusate che io non uso la terminologia teologica perché non mi compete, ma uso quella che penso più vicina. Grazie che ci ha accumulato probabilmente per domani. E allora c'è Giuliati e poi Goffi. Io chiedo un momento, non riesco a capire bene quale concetto di messia e messianismo ci sia a monte. Credo che forse si eviterebbero, se proprio facessimo uno sforzo di dire io sono messia dicendo questo e sono messia dicendo quell'altro. Mi pare che... Ma lui ha dato una definizione di tre caratteri iniziali. Ha iniziato con quello, con il genere per messia, forse questo è una mia difficoltà, se la vecchia lezione della Spiegatio Terminorum, proprio confermo gli effetti vari della nostra monolitica, questa è una questione così generale. Poi volevo fare una domanda che mi è venuta in mente. Noi parliamo di popoli messianici, non è possibile trovare anche dei popoli che abbiano un messianesimo in negativo, cioè che abbiano l'attesa di un annuncio che venga dal di fuori? Questa sarebbe una domanda interessante, per punto mio, perché adesso mi è venuto in mente, per esempio, la quarta etologa di Virgilio, no? Che questa attesa di un annuncio della salvezza. E poi mi pare che molte cose della roba del genere c'era anche, per esempio, sia nella civiltà, chiamiamola andina, perché chiamarla in carica è un po' difficile, e anche, se non vado errato, qualche cosa del genere, sia in ambiente maya e in ambiente azteca. Perché quanto mi risulta, una delle forze che ha fatto non resistere i tre imperi ai spagnoli, era appunto che loro avevano delle gente, delle aspettative, aspettavano degli uomini di tutti gli uomini bianchi che venivano dall'Occidente con la barba, che avrebbero portato qualche cosa a servizio al proprio genere. Sembra che questa sarebbe una variabile interessante da introdurre, perché allora si potrebbe chiedersi se ci sono dei gruppi o delle religioni con messianismo e altre comunque una fede del messianismo, forse in certo senso anche la tratta dei magi del Vangelo potrebbe mettersi su questa strada, anzi una, non so se è solo contrario a questo discorso, però è interessante perché allora il discorso dell'annuncio e dell'attesa sarebbe una specie di una domanda che è fatta. Goffi. Grande nostro amico moralista. Una difficoltà per averci moralisti verso i biblici, che è stato affermato perfettamente che il meccanismo cristologico si catalizza per la trascendenza e l'universalità. E il rapporto alla Chiesa invece abbiamo, tra l'altro, una caratteristica riduzione del meccanismo all'istituzione, cioè proprio bene. Io mi domando. Questa situazione che ha verificato il messianismo ecclesiastico può avere radici, dico radici remote, non causa, ma remote nella stessa parola, mi chiedo. Io non metto in dubbio che il fatto sia degli altri, di dire a Gesù che Gesù sia veramente realizzato dalla sua tendenza universalità, ma scrittura, quando si presenta la situazione della esperienza cristiana, si rappresenta sempre con queste note così chiare, caratteristiche e maturate di, vorrei dire, di trascendenza, di mentalità, oppure è così radicata nella cultura o nel momento di maturazione del tempo, per cui sono che è una ideologia quella di fronte a ciò che vive. In questo caso mi domando se dovrei cogliere un valore universale nella scrittura, anche in altra terminologia oppure dall'espressione della conversazione in cui è quanto possa essere frazionata anche la scrittura in un dato momento, in una data evoluzione. Cioè il messianismo ci viene presentato, è presentato oggettivamente giusto, ma non concretizzato nella sua forma che è stata indicata. Un termine ermeneutico. No, vorrei precisare il mio pensiero riguardo a questo. Io ho dato prima un tentativo di descrivere, non definire, il messianismo attraverso alcuni elementi che mi sembrano entrare per definire il messianismo di matrice biblica, ma non necessariamente biblica, cioè questa tensione al futuro, e qui entra dentro la trascendenza, il superamento del limite, e questo futuro definitivo salvifico che recupera anche il tema crisi e sofferenza. Poi il mediatore, che è un elemento caratterizzante. L'intervento del professor Prandi mi ha aiutato a chiarire il problema storia, che non è solo radicamento nella terra e nell'etnia, popolo, ma anche in una concezione del tempo in tensione, non ripetitivo, ciclico. No? Questo è vero, questo. Allora io, dopo questo quadro, ho cercato di definire la originalità cristologica, non biblica, ma cristologica del messianismo, e la vedevo... Non è che faccia obiezione a quello che diceva. No, per capire adesso come anche si colloca la presenza della Chiesa in questa tensione messianica che ha la radice in Gesù. Gesù, il Messia trascendente e universale, esclude concorrenti se è l'unico ed è per tutti. Però con questo non elimino gli elementi precedenti, soprattutto quello storico, che vuol dire la etnia, che vuol dire poi cultura, terra, se quando parlo di terra vuol dire cultura, vuol dire radicamento nei popoli. Proprio in forza della trascendenza è possibile che la mediazione di Gesù unica sia tradotta nella cultura greca senza che questi diventino ebrei, che sia tradotta nella cultura germanica senza che questi diventino latini, nella cultura asiatica, eccetera. Proprio è la trascendenza che mi consente dell'universalità, ma per realizzare i caratteri messianici, che sono la mediazione e la storicità, per realizzare la tensione verso un futuro salvifico definitivo. Il nostro atteggiamento di fronte alla scrittura è quello che a me interessa. Sì, lui vuole l'ermeneutica, lui dice la scrittura, direi, fissa in una incarnata struttura logica e linguistica discorso, e quindi lo particolarizza già. In un certo senso, nonostante tutto, diventa escludente, esclusiva e non è inclusiva. Invece lui dice, cercate quelle formule universali che se anche sono state imprigionate in una data cultura e sono diventate localizzabili di un popolo, invece hanno un valore universale. È un problema ermeneutico. Ha orientato la Chiesa, che non potevano essere, direi, sezionata e localizzata in cultura. Non si poteva pensare altrimenti, però non è una cosa che fatto. Sostanzialmente se la Chiesa, partendo dal dato, come dice parola, non avendo avuto la coscienza più di un ermeneutico come si può dire, sì. È stata orientata. Praticamente però lui, e se vuole difenderlo, ha accolto proprio dalla Bibbia, ha estratto, ha fatto quell'operazione sua, quegli aspetti strutturali che invece di aiutare la Chiesa a circoscrivere di nuovo e a catturare il messianismo, lo dilatano. E soprattutto poi quando è passato alla radicazione cristologica ha evidenziato quei due termini che si collegano con il discorso del professor Prandi, dove sostanzialmente è proprio il monoteismo in fondo o la trascendenza di un solo Dio che permette questa possibilità a tutti i popoli di avere un ruolo, altrimenti il politeismo viene a consacrare, diremmo, la divinizzazione di ogni popolo in quanto estratto dagli altri e contrapponibile agli altri. Però questo discorso, professor Prandi, che è radicale e profondo, oggi viene messo in crisi dalla corrente radicale messiana, la quale dice oggi abbiamo bisogno di nuovo di politeismo, cioè nonostante che il monoteismo diventi quel supervalore e di un orientamento finale che impedisce appunto le lotte tra idoli, le lotte tra popoli che si contrappongono sacralizzando le loro lotte. Nonostante questo, dice, il monoteismo è diventato una categoria anche quella oscura, cattiva, perché ovatta tutto, livella tutto e uccide la originalità dei popoli. Per cui si dovrebbe tornare di nuovo al politeismo. Io sono convinto che il politeismo non è mai morto neanche all'interno del cristianesimo. No, ma non parliamo del politeismo come fatto, ma adesso come ideologia che cerca... Scusi, la domanda che volevo fare è se posso... Se il paramonteismo come sia la fondante, no? Di questo cristianesimo. Ora mi domando, noi abbiamo veramente una capacità di avere un monoteismo che sia universale, trascendente, oppure di fatto così il popolo, non so parlare di vari modi che presentano il monoteismo, ognuno se la presenta in una forma concretizzata. Così che è forse una esagero per esempio. È un po' di illusione dire il politeismo no, il monoteismo sì. Più o meno, da una parte o dall'altra, penso che ci sia questo un po' di politeismo anche dal monoteismo stesso in cui si guarda l'aspetto dell'universale trascendente che possa avere il messianismo. Okay. Io sono convinto che anche nelle popolazioni più monoteistiche una qualche esperienze politeiste che esiste. Cioè, io sono convinto, per esempio, che la religione popolare è una religione di tipo politeista, perché i santi sono delle divinità specializzate in diversi settori e funzionano in questo modo. Se li fa un giro per tutti i santuari d'Italia, lei sa che ogni santuario ha una specializzazione. E questo è politeismo in termini tipologici, non voglio dire che per certi aspetti. Nel senso che il messianismo funziona, a mio parere, quando in qualche modo esiste una tensione tra questi due fattori. Il problema è che esiste una tensione tra un elemento unificante e un insieme di frazionamenti che in qualche modo lo spacca. Ecco, direi che la storia del cristianesimo, tutto sommato, è anche la stessa storia ebraica, è la storia di questa tensione. Perché il monoteismo è qualificante l'esperienza ebraico cristiana, ma non la totalizza. Sì, però il società è nato. Io quando ho sentito parlare di cristiani, eccetera, eccetera, quando ho pensato in forno in Italia, io non ci ho sentito dentro il modo come noi, direi, teologicamente ce lo pensiamo. Perciò mi sono mandato. Questo monoteismo per loro è un ridurre tutti gli altri a loro, come lei dice, come politeismo, o che cosa? Guarda, io non ho parlato, quando parliamo di buddismo o di gruppo, eccetera, non possiamo parlare, secondo me, di monoteismo così come possiamo parlare di esperienza ebraica cristiana e islamica. Cioè, in tutto è la personalità del Dio unico, la individualità che viene salvata. Questo è anche lo stesso induismo, cioè questo brahma che è una realtà, dico, onnipaziente in qualche modo, ma che non ha una specificità personale. Cioè quando parliamo di monoteismo, ben intende di vedere in termini storico-religiosi, una volta definito il termine, in che misura le varie culture si adeguano a questa definizione. Quindi io ho parlato di culture nelle quali, mancando questa specificità, che secondo me è sopravvissuta o comunque è tipica dell'esperienza ebraico-cristianica e cristiana islamica, in questa realtà non sono sorti delle forme messianiche qualificanti. Ecco, se non in momenti di tensione, di rottura, di frattura, ma qui bisogna andare a vedere anche gli aspetti politici, sociali, i momenti della tensione, l'espansione coloniale, la quale ha certamente notevolmente influenzato la nascita del messianismo. Questo bisogna vedere, secondo me, è il rapporto interreligioso, è la tensione, è la contraddizione che crea queste fenomenologie. Fa un po'. Vostro volente, e dopo volete tu un missionario, venite. Non ho tu, boh. Breve. Fabri, quando parli del limite, che riconduce a quella coscienza o la tradizione. È un concetto che mi va bene soltanto limitatamente. È un concetto che è troppo formale, e mi viene in mente definitivamente il Bultmann che a partire dal limite si definisce la rivelazione, no? Ecco, è troppo poco, mi pare, per affrontare e inglobare veramente la prospettiva biblica. Quando ti richiami alla creazione mi va molto meglio, però, ma mi insegnato qui a la domanda, che la creazione, la si pensa nella video parte della legge, no? E dunque anche il richiamo alla creazione acquista un'altra serie di connotazioni che vale la pena di sottolineare. A questo punto mi pare che il problema, sollevato poi dal secondo Marco Ventullo, sia proprio quello che qualsiasi anticipazione del tutto muove sempre dalla parte, e dunque sempre parziale in qualche modo. Proprio per questo c'è una grossa, lunga corrente, almeno di due secoli, che intende il termine messianismo, proprio per la sua presunzione di collegarsi e di riferirsi al tutto, in senso totalmente negativo. Il dottrino non lo dice, forse sarebbe stato fortunato che si fosse meglio. Che era lui collegato con me per preparare il dottrino. E dopo... dopo non ha fatto niente. Per essere coerente con lo scherzo che hai fatto prima, invece di dire soltanto l'anticipazione del tutto parte dalla parte dove ce l'avevo scritto, muove muove dalla parte, parte dalla parte, fare molto importante, no? E l'osservazione altrettanto importante per me è quella, peraltro un fenomenologico, mi sembra una storia fenomenologico, del legame tra monoteismo e messianismo, no? E questo, poi c'è subito, dico soltanto la parola, mi fa venire in mente Ferdinand, mi fa venire in mente Hegel, mi fa venire in mente proprio il modello sommo della riconciliazione messianica, che poi è quello che viene contestato più direttamente dalle accuse, dal rifiuto del messianismo e dall'emergenza oggi di nuovo della parzialità, eccetera, eccetera. E ultima osservazione, quello che ha detto il professor Prandi, forse anticipo quello che dirà domani, è molto importante, perché ci dice che la nostra considerazione del messianismo deve farci appunto togliere allontanare dall'orizzonte che ci sono dei popoli non messianici. Questo vale soprattutto nel tentativo, e dico tentativo che tentazione più sempre forte, di riportare sempre tutto al trascendentale, no? Di ricondurre, quindi, di fondare antropologicamente il messianismo in una struttura trascendentale. Attenzione, ci sono i popoli messianici e i popoli non messianici. Questo non esclude la possibilità della fondazione trascendentale del messianismo, ma indubbiamente è complica, il problema è lo complica, è in due direzioni. Quello dell'interpretazione del cristianesimo come progressiva perdita del messianismo, credo che sia abbastanza constatabile, è un po' salto nella spiritualizzazione del messianismo, cioè nella perdita della radicazione e della collocazione storica del messianismo, e secondo me, finisco, con questo fatto, no? Sì, d'accordo, però ci sono delle cose prima di questo fatto. E poi l'altro tema è questo, che noi oggi, cioè i popoli post-cristiani, tendono alla demessianizzazione, no? Ecco, e questo diventa proprio il confronto con i popoli che mai sono stati messianici, potrebbe essere importante proprio per comprendere più radicalmente la nostra situazione. Cosa intendi dire con l'ultima? Non tendono. I popoli post-cristiani, post-cristiani, perché adesso il buddismo, gli altri hanno... Naturalmente non messianici, almeno non si sente... Non messianici con la del computer, No, i non messianici sembrano invece caricarsi adesso di sindaco missionario, eccetera. Allora, il missionario, sentiamo cosa dice, padre. Il missionario ma non troppo. Ecco, bravo. Dopo quanto è stato detto. Innanzitutto una puntualizzazione o una domanda. L'esperienza di altri non è forse stata anche la dissoluzione per molti ebrei di un certo messianismo, cioè la propria sofferenza non distoglie la carica messianica di un popolo. C'è sempre la permanenza di coloro che non sono diventati atei. Allora, anche se, un'altra domanda, ateismo e messianismo, a partire da questa esperienza. Una seconda puntualizzazione, e forse anche domanda, cioè il popolo negro nordamericano, quale tipo di messianismo ha elaborato il negro spirituale? Sono un inetto diretto nell'Antico Testamento, quindi la domanda, cioè un popolo in particolare, come quello ebraico, l'ebreo, fornisce la base di crescita di così tanti messianismi nel mondo? Per qual motivo, mi chiedo io. Un popolo, poi una terza, a proposito dell'Egitto, un popolo così messianico, tra virgolette, perché non abbiamo sufficientemente precisato la consistenza di messianico, un popolo così messianico come quello di Israele non ha missione, ha mantenuto la sua missione ma non ha generato missione nel mondo. Un popolo così poco messianico per certi versi come quello della Chiesa ha generato così tante missioni. A partire da che cosa? A partire forse, mi chiedo io, dai messianismi particolari dei singoli popoli che sono stati progressivamente evangelizzati e che poi hanno generato missioni nel mondo, eccetera. Quale collegamento, mi chiedo io, c'è tra messianismo cristiano e missione? Se esiste un collegamento, oppure le missioni sono più la proiezione di messianismi di popoli evangelizzati, dei popoli del messianismo polacco, non so, messianismo tedesco, eccetera. Interessante anche questa domanda. Un'ultima osservazione che butto lì. Le missioni sono state viste, e penso che ancora nella mentalità di molti missionari, siano viste come la sopravvivenza del cristianesimo. Forse soprattutto in questi ultimi tempi nei quali pare che le religioni più di prima affilino le armi tra di loro. I viaggi di Giovanni Paolo II forse hanno anche questo aspetto, o sotterraneo, non lo so. E allora mi chiedo se sono state viste come la sopravvivenza del cristianesimo. Oggi potrebbero costituirne forse anche l'eutanasia oppure il suicidio, aperti, non so, a nuove forme di dialogo tra le religioni, oppure, diciamo così, recuperando la coscienza che non tanto l'espansione sarà la salvezza del cristianesimo, ma la concentrazione, la riconcentrazione. E questo discorso forse può valere per tutta la religione. L'induismo, il buddismo, si diceva in una conferenza da nonni, che sono diventati missionari come religioni a partire dai cristianesimo, a causa dell'impulso generato dal colonialismo religioso del cristianesimo. Io sono interpellato dal rapporto tra Israele e missione e messianismo e missione cristiana. Dunque, è un fatto che il giudaismo post-biblico, nel primo secolo, adesso l'epoca macabaica o prima, ha avuto un'intensa attività missionaria con una forte espansione nella diaspora fino al 70, dopo Cristo, con la crisi di Gerusalemme, e c'è da domandarsi se in questo, ricordate la frase di Matteo sulla polemica contro il proselitismo? guai a voi scrivi farisei ipocriti che percorrete il mare, la terra per fare un proselito e lo rendete figlio della gente a peggio di voi. Ora, era una forte espansione della missionarietà ebraica, non a caso c'era tutto il fenomeno del proselitismo e con anche adesione. Quindi è vero che l'ebraismo del primo secolo avanti fino al 70 dopo ha conosciuto una espansione missionaria con tutta un'attività missionaria, con modelli di i cristiani hanno utilizzato i libri e le forme di propaganda missionaria già elaborata da Alessandria. Noi abbiamo perso gran parte, ma Filone praticamente fa quest'opera di mediazione culturale, eccetera, adesso con intenti apologetici, allo stesso anche Giuseppe Flavio, con quello che posso dire della sua operazione storica di presentare la nazione a quelli di fuori, la storia della guerra in altre maniere, ma è con questa tensione delle finisce al 70. Poi c'è questo ripiegamento e qualcuno mette in collegamento con la forte espansione del movimento cristiano, bisogna di difendersi, forse lo shock della distruzione, eccetera. Questo pone un problema. Un'altra questione che a me viene sentendo il caro amico Minin, l'Islam, che non è stato trattato. Dunque, l'Islam, messianismo e missione. Non so se il professore poi mi può dire qualche cosa di questo, perché l'Islam ha un mediatore, il profeta, ma non so se è un messia, se l'Islam è messianico. Mentre l'islamismo ha una forte carica missionaria, di espansione, di conquista, è semplicemente la giustificazione ideologica di queste tribù guerriere, bisogno di espansione, ma sapete, le letture antropologiche, sociologiche, però rimane l'elemento religioso, del jihad, la guerra sacra che poi non è inventata da un momento, perché la storia della guerra sacra ha radici lontane, parte bibliche, ecco. Dunque abbiamo una missione senza messianismo. Questo pone un altro fatto, e oggi di nuovo in forte espansione missionaria, anche qui addirittura in Europa. Ecco, come lo vede lei questo fenomeno dell'islamismo non messianico e missionario a modo suo, insomma? È un problema un po' complesso, ovviamente in Europa questo invece l'Islam sta diventando la seconda religione, ma lo è già in Inghilterra, Francia. Per immigrazione o per conversione? Per immigrazione. C'è qualche conversione, per esempio in Sicilia c'è una moschea a Catania dove ci sono dei catanesi. Ma lì sono radici più storiche. Lì sono radici antiche. Parecchie conversioni, per motivi di matrimonio. Sì, di matrimonio. Le conversioni poi parecchiano nazionali. Però effettivamente, ecco, il problema non deve approfondito sulla natura effettivamente messianica dell'Islam. Io credo che una certa componente messianica esiste, insomma, vi sia, questo richiamo continuo allo stesso fondamentalismo nei confronti del Corano, secondo me, è espressione di un senso di una verità assoluta, di tutto sommato ha un carattere messianico, come in che presenta il futuro della Persia a posto di qualsiasi sacrificio, pur di raggiungere un obiettivo, e poi l'obiettivo di un rapporto nuovo con una realtà che è quella della modernizzazione che viene dall'Occidente, e sulla quale però l'Islam pensa di poter raggiungere un equilibrio in futuro e una dominazione. Cioè questa non volontà di ripiegarsi di fronte al processo di modernizzazione che viene dall'Occidente è espressione di questo, di una volontà messianica. Quantomeno di dominare quelle realtà nuove ed estranee che si stanno introducendo all'interno della sua cultura. Due cose, due domande. Primo, si potrebbe applicare al popolo, all'Islam, la categoria che è stata evocata prima di messia corporativo? Fin dall'inizio, questa è la prima domanda, perché voi avete supplicato per almeno come leggete. Secondo, ha rilasciato molto perplesso quello che ha detto l'amico missionario sulla faccenda che è stato il cristianesimo che ha stimolato la missionarietà. E allora vorrei sapere che sia vero che il cristianesimo, per esempio le correnti elettoriali di cui non conosciamo molto bene, che sono andate riguardo al VII secolo in Cina, hanno profondamente condizionato anche la rappresentazione, per esempio, della Dea della Misericordia, che è raffigurata tale quale come la Madonna del Bambino. Adesso non posso cooperare centinaia e centinaia di serventi in Cina, però come possiamo spiegare il fenomeno della scolazione del buddismo espulso praticamente dall'induismo molto prima che fare Cristo la Chiesa, se non va da parte fuori dei confini dell'India, perché nell'India è stato ovviamente rifiutato come lo spieghiamo? Evidentemente non è stata né in tutto cristiano né credo in tutto ebraico, per me risulta. Come la spieghiamo? Non è mica una diffusione missionaria, come la interpretiamo questa diffusione? Io voglio richiamare il fatto che siamo un po' usciti dalla rigida impostazione data da Don Fabris, cioè la prima parte del nostro dibattito è stata molto seriamente improntata al metodo scientifico, delimitare il concetto nonostante quello che dice Tracy, delimitare la struttura per vedere se si può applicarla. È apparso dal dibattito che è necessario avere il forte senso del limite di ogni struttura di pensiero, anche in questo caso, cioè ricordarsi che noi estrapoliamo da tante cose, tanti fatti, quel modello che è più utile per interpretare molte cose, ma molte cose rimangono anche fuori, i popoli non messianici, altre cose. Dopo invece siamo precipitati più in concretizzazione, perché mi pareva che il discorso di Fabris sottolineasse l'idea di una radicalizzazione del discorso per non, direi, enfatizzare alcuni modelli, per esempio, di messianismo. E forse il tema della sofferenza l'abbiamo un po' trascurato a questo livello. Cioè, mi sembrava che quando io assumo dai biblisti il discorso del messianismo dell'Antico Testamento, che la vista più alta della coscienza messianica si avrebbe quando si capisce che non è l'espansione dominatrice che caratterizza il vero modo di servire gli altri, ma attraverso il concetto anche del servo di Yahweh, ecco la sofferenza, diciamo, si mette al posto degli altri proprio anche per partire senza chiedere l'espansione. Da questo punto di vista mi sembra che il discorso, introduttorio fatto da Fabris esigeva di non entrare nelle forme concrete che alle volte sono, direi, complicate da tanti elementi, come dicevo, da soffrando, strutturali, eccetera, cioè il dominare gli altri, la rivincita, e dopo il trasporre una struttura, una esperienza in un'altra, in modo da cambiarne il disegno, renderla cristiana, eccetera. Mi sembrava che questo fosse il discorso da dirsi in questo momento, nonostante tutto appunto la ricchezza di cose che sono venute fuori. Io volevo appunto eventualmente sentire se i biblisti su questo discorso, diciamo, di un messianismo che non necessariamente è quello regale e che quindi deve dominare, e nemmeno quello profetico che riduce la battaglia a conflitto di ideologie, di idee, ma addirittura un messianismo di chi veramente si sente donatore degli altri anche quando rimane minuscolo e soffre nella minoranza intensa la sua, diremo, funzione vicaria e di rappresentanza in rapporto agli altri. Sì, ho visto una mano, però sì, volevo però ricordarvi che fra 5 minuti chiuderemo per potersi preparare meglio e partire. Dopo tu di sì, sono un attimo inseriti nel confronto tra dottor Prandi e dottor Gozzi, e quando, se non ho capito male, l'intervento suo si chiedeva se il biblico non è una lettura fobica fatta da Israele in una certa situazione, ma io questo è il problema. Ora vi domando se, a partire da questo interrogativo, prolungando in prospettiva cristologica, quale consistenza a questo punto viene a avere veramente il fatto Cristo. è una lettura allora simbolica che fa la comunità ebraica in un determinato contesto o ha una sua consistenza storica? Se veramente Gesù Cristo non è solo la trascendenza, ma è la trascendenza che si incarna, allora a questo punto io vedo che qui c'è un mondo. E lo rivolgo anche al dottor Prandi quando dice che ogni religione, no, tenendo presente anche come religione, è fattore del culturale, proprio a partire dalla sua consistenza storica. E per salvare il valore del tipo delle religioni lo riporta alla visione della trascendenza, quindi all'unico concetto di Dio. A questo punto mi pare che viene veramente ancora una volta svoltata la mitologia. Io non rivolgo la domanda al dottor Prandi perché si colloca in una posizione diversa, ma di questo tipo di ma è proprio quello che chiede Wieman, cioè noi dobbiamo come teologi radicalizzare il problema. Può darsi che molta cristologia sia escludente, esclusiva, con la pretesa di affermare la singolarità di Cristo nella sua trascendenza, nonostante che lo appelliamo Cristo, lo gesuiamo molto, in modo che a un certo punto utilizziamo una cristologia che invece di aprire la possibilità a tutti i popoli di considerare Cristo il loro centro, forse limitiamo la capacità universale. Quindi abbiamo un impegno molto forte noi. Mi pare che Dilma ha molta ragione su questo. Cioè bisogna partire non dalla Chiesa che deve diventare più includente, più aperta, universale e meno etnocentrica, ma anche la cristologia deve essere fatta in maniera... E questo è un suo discorso serio. Tu volevi dire? Volevo dire una cosa, no, non so, possiamo dire anche domani, sì, domani. Ma mi pare un elemento che è molto da non perdere stasera, è questo rapporto tra la trascendenza e la storia, che forse è l'elemento teologicamente fondante del messianismo come tensione, dal parziale al tutto, dal limitato al completo, dal precario al definitivo. Questa tensione, ci sono altri modi di definire questa. Il problema cristologico qui è la trascendenza incarnata, questo è il punto diacritico del messianismo cristiano o cristologico, che è una tautologia dire messianismo cristologico, ma insomma la trascendenza nella storia, ma senza assorbire la storia nella trascendenza, ma direi rendendo acuta questa tensione. Quello che in India si fa, Panikkar, il Cristo è soltanto della Chiesa, è catturato dalle chiese, qualche cosa di più trascendente. Bene, allora abbiamo fatto un assaggio, un antipasto, 22 interventi, e tutti direi fornitori di problemi che si sono intrecciati senza chiarire del tutto, direi, delle soluzioni. Domani è...